come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle d'una ad una, ai, cerco sorridere alla luna, ai, provo fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre. Siamo qui, siamo tornati come ogni sera, caro Parenzo. Senza dubbio. La Zanzara su Radio 24, 800 24 00 24. Andiamo a sentire Pierluigi Bersani oggi, che ha parlato di macchina del fango a proposito di alcuni articoli usciti sulla questione morale nel Partito Democratico. Devo dire la verità, tu dici addirittura, certo, e ti stupisci, perché è vero che alcuni articoli sono stati particolarmente pesanti, ma quanti ne abbiamo letti di articoli pesanti contro l'altra parte politica? Ci sono commenti, ci sono notizie, la reazione del segretario del Partito Democratico è questa. A vedere oggi le paginate dei giornali, a guardare i telegiornali, c'è da rimanere allibiti. Non credo che siamo noi il problema in questo momento, eh? Lo dico alle macchine del fango che cominciano a girare, se sperano di intimorirci, si sbagliano di grosso, eh? Abbiamo capito. Ma che abbiamo capito? Tu hai capito? No, non ho capito se si lamenta di articoli apparsi sul giornale Libero, come dire, dove hanno già emesso delle sentenze, oppure se si lamenta delle inchieste giudiziarie, non ho capito. No, si lamenta di alcuni articoli di giornale, in particolare di Libero, che oggi scrive, per esempio, il Partito Democratico, nell'assoluta indifferenza della magistratura, impone in quasi tutta Italia un pizzo sulle poltrone pubbliche, il sistema non è così diverso da quello utilizzato dalle organizzazioni criminali, eccetera, eccetera. Va bene. Bersani addirittura minaccia una class action. Beh, questo... Aggiungo che sto facendo studiare, non so se c'è la possibilità, ma spero che ci sia, la possibilità di fare queste querele, queste denunce, queste richieste di risarcimento come class action, perché concettualmente, essendo un partito una proprietà indivisa, se viene paragonato l'Ndrangheta, in questo c'è un insulto per ciascuno dei suoi componenti. E poi dice sempre Bersani: le dimissioni di Penati sono un esempio. Si dovrebbe capire da che cosa dimissioni, dagli incarichi nel Partito Democratico, è vero, dagli incarichi in Regione Lombardia, è vero, ma non dalla Regione Lombardia stessa. Io credo che Penati abbia fatto il passo significativo nel meccanismo di rappresentanza, in cui rappresenta l'istituzione, ne porta in giro il volto, ne porta in giro il profilo. Mi piacerebbe che anche altri lo facessero. Non credo che questa cosa riguardi solo noi, sarebbe curioso che riguardasse solo noi. E quindi continua la guerra tra la Bindi e Tedesco, tra una parte consistente, direi maggioritaria, del Partito Democratico e il senatore ormai ex Partito Democratico. La Bindi, per esempio, dice: meno male che esce dal Partito Democratico, ora sono affari suoi. Ha dichiarato comunque che esce dal partito, ma meno male, anche se il passo indietro, ma meno male, anche se non si dimetterà comunque da parlamentare. Ho capito, e vabbè, intanto a questo punto vediamo, sono affari però suoi, non nostri. E Tedesco risponde in questo modo: recupererò la mia identità socialista. Continuerà comunque a fare politica? Non c'è dubbio, ho detto che proprio per rispondere a chi sostiene che la condizione di ex socialista, anch'essa è una condizione criminogena, cercherò di recuperare appieno la mia identità socialista. Infine, la Concia, la signora Concia, il deputato del Partito Democratico, omosessuale dichiarato, la quale dice parte del Parlamento sta con i violenti. Questo francamente mi sembra esagerato, semplicemente perché qualcuno non vuole aggravare le pene per chi aggredisce, faccio un esempio, un gay. Dunque, secondo la Concia, una parte del Parlamento sta con i violenti. Ha ragione, perfettamente ragione. Una parte del Parlamento oggi ha deciso di stare dalla parte dei violenti, di non voler costruire gli anticorpi contro il pregiudizio e la violenza. Bene, questa è la Zanzara, 800 24 00 24, ma c'è naturalmente il caso Borghezio che è esploso, lo sai benissimo anche tu Parenzo, non solo in Italia ma anche in Europa, nel Parlamento europeo. Ti rendi conto che questa trasmissione ha creato un caso europeo, un caso Borghezio europeo? Ma lasciamo perdere questo. Ci sono stati articoli ripresi perfino in Norvegia su questa vicenda. Allora, direi che dobbiamo dare la parola, dopo due giorni, al protagonista di questa vicenda. Allora, di nuovo in collegamento con noi dalla Francia, l'eurodeputato della Lega Nord, Mario Borghezio. Buonasera. Buonasera e buona Tania. Sono un po' fatto un bel casino, perché sono stato vittima. Un attimo solo, Borghezio. Allora, la prima cosa è questa: il ministro degli esteri Frattini, il suo ministro degli esteri, fino a prova contraria, oggi ha detto Borghezio è farneticante e si deve scusare personalmente con la Norvegia, con il governo norvegese, con i cittadini norvegesi, con i parenti delle vittime. Iniziamo da questo. Lei ha intenzione di porgere queste scuse? Ma a parte la definizione, diciamo, non del tutto garbata, sulla quale per amor di patria e anche di quieto vivere vorrei passare oltre. Cioè quale? Farneticante? Il suggerimento però, la richiesta da parte del Ministro degli Esteri di esprimere un sentimento di rincrescimento e anche delle scuse mi sembra un'occasione da cogliere doverosamente. Io devo dire che già di dunque Borghezio, dica chiaramente questa cosa, chiedo scusa se ho offeso qualcuno. Approfitto di voi perché voglio anche sottolineare una cosa, con tutti questi attacchi, questi titoli di giornale, queste ricostruzioni stravolgenti del mio pensiero, sapete qual è stato l'unica emittente che mi ha dato la possibilità di parlare e di spiegare che cosa avevo detto? Sembrerà incredibile, ma è stata Radio Teheran in italiano che mi ha chiamato da Teheran. Radio Teheran, per dirmi, ma scusi, lei che cosa ha detto? Ma in che lingua ha parlato a Radio Teheran? Ora il Messaggero, Repubblica e anche dei giornali Il Fuoco Amico, nessuno di loro, tranne le, devo dire, cioè la Padania nemmeno? Nemmeno la Padania? Il Corriere della Sera, lasciamo perdere i giornali di partito. No, ma la Padania l'ha chiamata? La Padania l'ha cercata per una spiegazione? Nessuno mi ha dato, tranne il Corriere della Sera, che ringrazio, e oggi pomeriggio soltanto il dottor Mineo mi ha fatto chiamare per Rai News, perché anche lì io ero all'estero, quindi ho sentito cosa hanno detto. Però Borghezio, torniamo alla cosa principale. Torniamo alla ciccia del discorso. Lei vuole chiedere scusa pubblicamente? Ecco, non ha difficoltà. Chieda scusa pubblicamente. Lo faccio. Sì, ovviamente, visto l'eco e anche la diffusione in mezzo Europa di un messaggio negativo e anche preoccupante, prima di tutto per le mie convinzioni, la mia immagine, il mio pensiero, il mio passato, sì, e naturalmente per quello della Lega, io sento il dovere di esprimere rammarico e chiedere scusa se queste mie considerazioni, questi miei ragionamenti hanno potuto essere interpretati in senso offensivo, anche soltanto larvatamente, verso le vittime della strage. Beh, il minimo. Dunque lei chiede scusa alle vittime della strage, al popolo norvegese, al governo norvegese? E al popolo norvegese, certamente, lo farò anche sicuramente nelle sedi istituzionali appropriate. Voi siete i primi che mi date la possibilità di farlo, dopo aver... Quali sono le sedi istituzionali, scusi? Quelle che si vedranno, insomma. Il Parlamento europeo? Le sedi, sicuramente anche al Parlamento europeo. Ma diciamo, cioè, però, allora, ripeta, però, scusi Borghezio, io non voglio insistere su questo, però siccome il ministro Frattini le ha rivolto un invito, allora lei mi può dire, io rispondo positivamente, tra l'altro ho già preso un contatto col ministero. Per fare cosa? Per concretizzare questo atto di scuse in maniera ufficiale. però cioè lei però già oggi pomeriggio annuncia, mi date la possibilità di darlo già, di dare già una comunicazione anticipata radiofonica, visto che tra l'altro tutta la questione è nata dalla trasmissione a Zanzara, è bene che si concluda anche, direi, positivamente. Dunque chiedo scusa, ripeto un po', chiedo scusa al popolo norvegese e alle vittime. L'ho già detto, io non ho difficoltà a riconoscere che l'inopportunità delle mie affermazioni e anche col senno di poi dichiarare rammarico e chiedere ovviamente doverosamente scusa per l'effetto che l'interpretazione delle mie parole, a mio avviso del tutto infondata, comunque l'interpretazione c'è stata, non è che posso nascondermi dietro il dito. Certo, allora Borghezio, in questo momento noi abbiamo ricevuto una notizia che è importante, anche questa è una novità assoluta nella vicenda. Certo. L'ascoltiamo questa notizia, che è un'evoluzione del caso Borghezio, un'evoluzione italiana del caso Borghezio, e la ascoltiamo dalla viva voce di Raffaella Calandra, che per Radio 24 si occupa soprattutto di cose giudiziarie. Allora Raffaella, buonasera, dici che cosa succede, credo in particolare, alla Procura di Milano. Succede che il caso non è chiuso, perché la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'intervista di Mario Borghezio alla Zanzara. Al momento si tratta di un fascicolo conoscitivo, potremmo dire, quello che in gergo tecnico si chiama modello 45, cioè senza ipotesi di reato né indagati, ma è un primo passo. Ecco Raffaella, in concreto quali sono le ipotesi che si fanno di un possibile reato commesso da Borghezio? Diciamo che allora, al momento non ce ne sono, però diciamo che di sicuro i magistrati e nello specifico Armando Spataro, che è il capo del Dipartimento Antiterrorismo di Milano, vogliono ricostruire e approfondire quelle dichiarazioni sulle ragioni dell'attentatore di Oslo, anche per verificare se ci siano o meno gli estremi per contestare l'istigazione alla violenza. È questa l'ipotesi di reato che potrebbe essere sullo scenario. Comunque il primo atto ufficiale dopo l'apertura del fascicolo è l'acquisizione dell'audio con le parole di Borghezio, un'acquisizione già avanzata poco fa formalmente dal procuratore Spataro. Infatti con un fax chiede a Radio 24 di predisporre copia integrale dell'intervista all'onorevole Borghezio, leggiamo, circa le motivazioni della strage di Oslo. Bene, grazie. Dunque, la notizia ufficiale, un attimo che c'è il traffico, la notizia ufficiale è che è stato aperto un fascicolo, ancora non è stato individuato un possibile reato, un fascicolo sulla vicenda Borghezio. Borghezio, un attimo solo, ho il traffico, poi torno con lei. 800 24 0024, un fascicolo aperto su Borghezio, su questa vicenda, alla Procura di Milano da parte del procuratore Armando Spataro. Eccoci qua, allora, 800 24 0024, caro Parenzo, hai sentito la notizia? Francamente, posso dare un primo giudizio? Francamente, io l'ho già detto ieri, non posso non essere d'accordo e non sono d'accordo con quello che sostiene Borghezio, ma difenderò sempre il suo diritto di esprimerlo, e mi pare francamente esagerata un'iniziativa giudiziaria su parole espresse da un eurodeputato, ma in generale su parole espresse che non credo che istighino. Però la collega, io vi faccio una dichiarazione ancora più chiara e forse più significativa. Sono talmente in perfetta buona fede, e do atto anche al conduttore di averlo detto in trasmissione, di avermelo riconosciuto. Io ho condannato in maniera chiarissima questa strage, l'autore, le conseguenze di quello, delle sue farneticazioni, l'ho definito un folle più volte, non ho avuto alcuna parola giustificazionista, però se l'autorità giudiziaria, sia quella di Milano o di Forlimpopoli, vuole indagarmi per le mie dichiarazioni, io, a differenza di molti politici italiani che fanno i furbetti sulle disgrazie altrui e poi si fanno tutelare dall'immunità parlamentare, dichiaro immediatamente sul mio onore che non chiederò la copertura dell'immunità parlamentare. Quella europea. certamente è l'unica che ho, ovviamente. Rinuncio fin da adesso, lo dichiaro sul mio onore, perché io sono tranquillo, la coscienza pulita. Io ho questo. Scusi un attimo, però, come reagisce lei? Lei ha detto rinuncerò all'immunità parlamentare, mi farò giudicare, eccetera. Io non ho alcuna difficoltà a presentarmi anche domani mattina. Adesso sono in vacanze, fosse possibile farlo magari fra una settimana sarebbe meglio. Ma se il procuratore Spataro, che tra l'altro conosco e apprezzo per la serietà dell'impegno antiterrorismo, mi vuole sentire su questa cosa, ovviamente dopo aver acquisito quello che gli manderete e che sappiamo tutti cosa ho detto. L'audio originale. Quindi. Io sono a disposizione immediata dell'autorità giudiziaria. Bene. E considero. Dunque non le pare un'iniziativa improvvida, esagerata. Io non faccio nessun commento. Me lo commenti questa cosa. Omnia munda mundis. Io sono tranquillo. Cioè? Tutto è puro per i puri. No, d'accordo, quindi, però Borghezio, scusi un attimo, qui c'è un'iniziativa giudiziaria nei suoi confronti, lei non la commenta nemmeno, non ci può dire qualcosa? Io non la commento perché non ho paura e vorrei anche che venisse considerata la differenza del comportamento di chi non si nasconde dietro l'immunità parlamentare, perché vedete, mi sono state attribuite rivolte verso un esponente del mio partito, non era vero, io ho parlato della necessità di avere gli attributi per dire certe cose, in linea generale, il politico non deve aver paura di dire quello che pensa e in una democrazia. Scusi, Calderoli, che è un ministro importante, un dirigente importante del suo partito, ha parlato di farneticazioni e lei ha detto non hai coglioni. No, ma io non mi riferivo a lui. Come non si riferiva a lui? Non mi riferivo certamente a lui, ma facevo un ragionamento che io faccio da molto tempo, perché ho avuto anche Zaia, il presidente della Regione Veneto, mi scusi Borghezio, anche Zaia, presidente della Regione Veneto, ha detto Borghezio non è la Lega, basta con queste cose, eccetera. Cioè, la domanda è questa. Si sente solo anche, io ho la fortuna, a differenza di loro, di non avere alcuna responsabilità istituzionale. Perché non sono ministro, non sono sottosegretario, non sono presidente di regione, eccetera. E ho la grande fortuna di militare nella Lega di Lotta. E questo che soddisfazione mi dà è che anche se non mi fanno parlare, quando io giro per il prato di Pontila, diciamo sono ben accorto dai militari. Scusatemi, le cose che ha detto noi. Ha ricevuto dai militanti della Lega. Padani, in questi giorni ha potuto vedere che sono molto pochi quelli che danno di Borghezio e di quello che si è permesso di esprimere un giudizio negativo. Quanti messaggi di solidarietà ha ricevuto? Io ho difficoltà a parlare con i giornalisti perché continuamente arrivano telefonate e messaggi sul mio telefonino anche alla mia mail. Quante? Migliaia di messaggi di solidarietà? Una sola telefonata di un sindaco. Un'unica telefonata di un sindaco collega che molto educatamente mi ha detto Borghezio devi essere un pochino più prudente. Questo è stato il massimo rimprovero. E invece solidarietà, messaggi da parte del popolo della Lega, quanti? Un migliaio. Veramente molti. Io colgo anche l'occasione per ringraziare questo popolo della Lega. Perché senta Borghezio, ma non se dunque qualcuno, siccome qualcuno ancora in vita... A me risulta che persino un esponente radicale, l'onorevole Cappato, che è stato eurodeputato con me, abbia detto ieri in una trasmissione a Milano, televisiva a Milano, che non riesce a credere che io abbia potuto giustificare una strage. Quindi, conoscendomi, dice non lo penso nemmeno. Lei con Bossi ci ha parlato? Borghezio, con Bossi ci ha parlato? Ma vede, io penso che il segretario della Lega abbia altre cose in questo momento a cui pensare. Ma ci ha parlato o no? No, io non ho sentito nessuno nessun dirigente e devo dire che rispetto a questa decisione della Lega di prendere distanze dalla interpretazione che è stata data alle mie parole. Forse se avessero magari si fossero messi in contatto con voi e avessero ascoltato la trasmissione, magari sarebbero stati un pochino più ma il punto forse è il punto si forse può dire, si può dire che il popolo della Lega è con lei, cioè... ho espresso delle opinioni, un ragionamento e non ero, a differenza del folle di Oslo, non ero sotto l'effetto delle anfetamine, grazie a Dio, e neanche avevo però lei ha ha detto delle cose in un momento sbagliato attribuendole alla persona sbagliata, questo lo può riconoscere. Io ho parlato come mia abitudine dicendo quello che pensavo ed esponendo una preoccupazione che a mio avviso è lecita, perché se voi leggete anche un interessantissimo commento che ha fatto sulla vicenda di Oslo, una persona intellettuale come Marcello Veneziani sul giornale di oggi, voi vedete che questa preoccupazione non è mica solo mia, cioè è quella da cui sono partito, cioè il cui Prodest, dico, questa vicenda, questa impresa veramente pazzoide e delinquenziale del folle di Oslo, quale risultato raggiungerà? Quello di criminalizzare le posizioni Senta Borghezio, ho capito quello che lei dice, secondo me non succederà, non succederà. Comunque le chiedo ancora una cosa, le dimissioni, non mischi però la Fallaci al pazzo di Oslo. Guardate che quello che si muove in Europa, non da oggi, non solo, ma il suo errore, Borghezio, scusi onorevole, è il tentativo di tappare la bocca a quelli che la pensano come me, Il suo errore è stato quello di unire, a dare, come dire, una patente ideologica a un pazzo scatenato che ha compiuto una strage. Non può dare una patente. Evidentemente o non sono stato capito o più probabilmente mi sono espresso. Però Borghezio, mi scusi, adesso siamo verso la conclusione. Vorrei fare ancora due domande. La prima è questa: alle dimissioni dunque non ci pensa proprio? Ma prima di tutto nessuno me l'ha chiesto, di quelli che mi interessano. Io rispondo a Bossi e al popolo della Lega. Bossi non mi ha chiesto le dimissioni. Bossi non mi ha chiesto elettori, le dimissioni. Ovviamente agli elettori. Io penso Bossi che, non le ha chiesto le dimissioni, Bossi. Io penso che la Lega mi conosca e sappia ben soppesare il grado di strumentalizzazione che, come voi stessi avete correttamente riconosciuto, è stata fatta sulle mie parole. Comunque nessuno della Lega ha chiesto le mie dimissioni. Se si tratta di valutare inopportune queste considerazioni, di valutarne. Sì, ho capito. Io non metto lingua perché io sono soldato della Lega. Quando i giornalisti mi chiedevano se ero maronita o del cerchio magico, io ho sempre detto sono del cerchio operaio, perché ho una certa idea volontaristica della Lega di lotta. Però Borghezio, scusi un attimo, no, questo l'ho capito benissimo. Lei ha detto nessuno della Lega mi ha chiesto. A me delle cariche non me ne frega niente. Nessuno della Lega mi ha chiesto di dimettermi, giusto o no? Quando c'è stato il ribaltone e il nostro segretario ci ha chiamati uno per uno, io ero sottosegretario, e ci ha chiesto, se, almeno a me l'ha chiesto, se ci dava fastidio dare le dimissioni da queste cariche, io ero sottosegretario, io gli ho risposto, anzi per me è una buona notizia, perché stare al ministero per me era come uscire dal ministero. No, ma ho capito benissimo, però Borghezio... Questo è chiaro, la cosa è questa: nessuno della Lega, tantomeno Bossi, mi ha chiesto le dimissioni. Mi sembra che si possa dire così. Ma questo ci mancherebbe altro, perché guardi, ci mancherebbe altro. La ricandidatura al Parlamento europeo, lei prende in considerazione l'ipotesi di non ricandidarsi? Ma questo, sa, io non ho mai chiesto di essere candidato, me l'ha sempre cioè comunque lei vuole andare avanti nel suo mandato al Parlamento europeo anche io voglio andare avanti con le mie idee, e poi sa, si possono sostenere in molti modi, e grazie a Dio ho un mestiere. Come risponde ai suoi colleghi del Parlamento europeo di altri partiti che chiedono con forza le sue dimissioni? Lo hanno già fatto in passato pare che non ce ne siano, dicendo che lei è razzista, che è incompatibile con i diritti dell'uomo. Guardi, io penso che queste accuse di razzismo possano essere facilmente ritorte verso chi per esempio discrimina, perché io nella vita politica con la Lega ho conosciuto la discriminazione e ho imparato, i razzisti sono quelli che chiedono le mie dimissioni, giusto? I razzisti sono quelli che chiedono. Ho imparato a mie spese quanto sia grave, immondo, vergognoso discriminare persone che non la pensano come te. E dunque sono razzisti quelli che chiedono le mie dimissioni? Sono razzisti non quelli sono che razzisti, mi dicono? Sono cretini e quindi, sai, i cretini non si risponde. Io penso di non essere un cretino, non dialogo con i cretini, con le persone che mi con questa parola è tornato il vero Borghezio. Dice: ecco, quelli che mi criticano, quelli che chiedono le mie dimissioni sono dei cretini. Bene, devo chiudere, grazie. Quelli che mi criticano possono farlo. Quelli che chiedono le dimissioni, quelli che chiedono le dimissioni. Ecco, ci farebbero meglio chiedere ai ladri, siccome io, grazie a Dio, ho le mani pulite, a differenza di molti politici, e faccio il mio bene, dovere. Grazie, devo chiudere. Un saluto, grazie a Mario Borghezio. Ci sentiamo dopo il giornale Radio delle 19. Eccoci qui con il solito Parenzo in gravissimo ritardo. 800 24 00 24, ci sei a proposito o no? Pronto? Ci sei o no, Parenzo? Non c'è, mandiamo subito i titoli del TG3. Titoli del di TG3, Bianca, grazie. Benigne. Nitto Palma è il nuovo guardasigilli, prende il posto di Alfano che si è dimesso oggi, Anna Maria Bernini ministro senza portafoglio. Ministeri al nord, dopo le forti preoccupazioni espresse da Napolitano, attesa la replica del Premier, la Lega insiste, nessun passo indietro. Bersani attacca sulla questione morale, basta fango sul PD, in atto una vera e propria aggressione, il segretario annuncia una class action. Borsa in rosso, Piazza Affari la peggiore, perde quasi il 3%, trascinata al ribasso dai bancari, titoli di Stato ancora sotto pressione. Paura e tensione per un falso allarme bomba alla stazione di Oslo, foto e immagini delle ultime ore sull'isola prima della tragedia. A Roma i funerali solenni per David Tobini, il parà della Folgore ucciso in Afghanistan, sulle missioni all'estero il sì del Senato. Storico, secondo oro della Pellegrina Mondiale di nuoto in Cina, doppietta ridata nei 200 e 400 stile libero, argento a scozzoli nei 50 rana. Ci sei o no, Parenzo? Ci sono. Sei in ritardo come al solito, eh? Tesoro, sono in ritardo, ma io non capisco una cosa, ma il 27 di luglio a Roma, la G cosa fa? Perché non vanno in vacanza? Perché non vanno mai? Perché lavorano come stai lavorando, come stai lavorando tu. Andate in vacanza. Cosa fate a Roma il 27 di luglio? Tutti in giro, sono con le macchine. Vabbè, ma a che punto sei, scusa? Una cosa vergognosa. Dove siamo, direttore? Dove siamo? A Via Venezia, direttore. Vabbè. No, non lo so. Come? I funerali? Vabbè, ma capito. Io ho capito tutto, ma perché si arrabbia con me? Si arrabbia con me come se... Funerali di Stato, lo sai che significa? Funerali di Stato. Ma chi se ne frega? Devi arrivare qui, di al tassista che devi... Subito. Cruciani, aspetta, lo sai che ci stanno i funerali, ci stanno pure i tassi. Ma funerali, sì, no, ma io non ho detto che me ne frego dei funerali. Io passo un attimo, così gli parlo. Ma no, che io devo dire io? Scusi, ma lei lo sa che ci sono i funerali a Piazza della Repubblica? Lo so, allora se lo sa, scusi, c'è un po' di traffico. Beh, ma facciamo un giro più largo. Ma facciamo un giro più largo. Infatti più largo, lo stiamo facendo, più mi largo porti questo Parenzo? Me devo sempre poi avvicinare a Piazza Indipendenza, Vabbè, certo, per carità. No, ma infatti no. No, ma è per carità, noi siamo qui ad aspettare. Veneto, non è che siamo lontani, però se le strade bloccate, non è che veloce. Scusi, Va bene, veloce, va bene, grazie. Grazie. Naturalmente il mio me ne frego non era rivolto ai funerali di Stato, certo, ma a eventuali ostacoli all'arrivo di Parenzo. Ma come devo fare? Non è che possiamo spostare la radio, lei mi dice devo andare proprio lì. E che discorso non è? Allora andiamo a Fregene. Ho capito, ma perché lei mi dice che io devo andare proprio là? Se vuole chiediamo alla signora Marcegaglia di cambiare di spostare la radio. Chiediamo a Radio 24 siccome scontro tassista, Parenzo tassista. Scontro tra Parenzo e un tassista. Io sono di quelli che si spostano. Ma non è colpa, facciamo spostare la radio, d'accordo? Spostiamo all'Eur la radio. Ma si rende conto? Ma che chiama la follia? Io conosco una cosa pazzesca. No, ma la cosa assurda, scusa, è che il signor tassista lo sapeva. Adesso io adoro i tassisti che sono grandi ascoltatori della Zanzara, per carità. Però il tassista lo sapeva che c'erano i funerali, cioè non è una sorpresa. No, e mi ha detto, ma adesso dice, ma lei proprio lì deve andare, mi dice. Ecco, guarda, quello è Berlusconi, eh. Chi è questo? Scendiamo un attimo. Fermi! Berlusconi! Guardi che c'è lì! È la zanzara! Mamma mia! Ma che succede? Che sta succedendo? A piedi dobbiamo andare. No, lei forse dovrà andare. Ma come a piedi? Guardi, ma andiamo, andiamo! Guardi, forse è più semplice far spostare la sede della radio, no? Cosa dice lei? Ah, Parenzo, ma sempre la solita cosa, su, vai a piedi, sbrigati! Ma come a piedi? Da via Veneto a lì a piedi, impossibile. Ma non lo so, ma allora faccia un'altra strada il tassista, ripassami il tassista, ripassami il tassista! Scusi, se Cruciani che la vuole parlare, Cruciani è arrabbiato. No, io non so che strada, siamo a via Bissolati, è tutto bloccato. No, scusi, signor tassista, io detto con grande rispetto e per carità per tutti i tassisti di Roma e di Milano, di tutte le città d'Italia, che sono grandi ascoltatori della zanzara. Il cliente lo vede di persona quello che c'è a via Bissolati. Mi ho capito, lei, ma lei lo sapeva che c'erano i funerali, che c'erano i funerali. Ma che vuole se i funerali li fanno a Piazza Indipendenza? Lo sai dove stanno i funerali? A Piazza Repubblica, alle spalle. Ma lei capisce quando si muove Berlusconi e Napolitano quello che succede, no? Lo so, tanto. Le macchine blu, che le macchine che blu, io eccetera. Io me lo dico, io non lo so. E che ne so, faccia qualcosa, mi porti a destinazione. Io torno indietro, solo che noi dobbiamo andare là, ora ritorno indietro, che devo fare io? Non lo so, mi deve portare a destinazione Parenzo, è una cosa fondamentale. Sei incazzato, devi poter far scendere adesso. Non esagerare. No, ho capito. Noi dobbiamo andare. Ho capito, ma non si arrabbia. Ecco, torniamo indietro. Ma vedi cosa succede? Ogni volta se ci metti in trasporto non si può più andare qui, capito? Che no, no, ma non si arrabbia. Non si arrabbia, adesso andiamo. No, ma io non me la sto prendendo. Io vorrei che mi portate. Un casino, lo sai, hai scatenato, l'hai fatto incazzare. Viva i tassisti, per carità, ma mi devono portare. Aiutatelo, appello a tutti i tassisti di Roma che sono in ascolto in questo momento. Voglio che mi portate qui a Piazza Indipendenza, Parenzo, aggirate questo ostacolo, per carità. I funerali, mi inchino di fronte ai funerali del tassista. Ma lontano, non avvicinando. Noi dobbiamo andare là. Parenzo, questo è un problema gravissimo. È un problema gravissimo. È una situazione gravissima che è successa. Va bene, a questo punto è anche inutile che vi faccio ascoltare delle cose, perché mi pare già abbastanza quello che avete ascoltato. Perché c'era un clima da sfida oggi in diverse trasmissioni televisive su vari argomenti. Però la disfida tra Parenzo e il tassista mi pare assolutamente più attuale. Direi di andare a una. No, però vi voglio far ascoltare lo stesso. Che succede? No, è arrabbiato. Andiamo contromano. Ripassamelo un attimo. Aspetta, vuole parlare Cruciani di nuovo? No. Ecco, me le tengo io. No, devo guidare, scusi. È arrabbiato, non vuole. No, per carità, ma perché si arrabbia? Mi manda giù, se no, dai. Va bene, Valentino da Brindisi, buonasera, Valentino da Brindisi. Pronto? Signor Valentino, lei non può fare nulla. Pronto, signor Cruciani, grazie per avermi chiamato. Sì, volevo dirle una cosa, io non parlerò di Borghezio e tante altre cose, l'avete già parlato di bene voi. Di chi vuole parlare? Però volevo parlare con lei, volevo dirle una cosa. Sono rimasto un po', diciamo, maluccio, va? Quando lei, rispondendo a un radioascoltatore alcuni giorni fa, il quale radioascoltatore sosteneva che un politico indagato, eccetera, dovrebbe per correttezza dimettersi, mentre lei sosteneva il contrario, diceva per quale ragione, eccetera. Sappiamo tutti che non esiste una legge, diciamo una legge scritta, che non dice chiaramente quello. Questo lo sappiamo tutti, andiamo alla porta aperta a dire questo. Però esistono pure delle leggi morali. Io mi meraviglio moltissimo. Io la stimo tanto, la seguo tutte le sere, immancabilmente. Scusi, per avere la sua stima definitiva, io dovrei dire che un politico indagato si deve subito dimettere? Certamente. Ma lei non mi avrà mai da questo punto di vista, non mi avrà mai. Vabbè, Valentino, io glielo dico, glielo confermo, per carità, mi dispiace, ma non mi avrà mai. Senta, dottor Cruciani, se mi lascia gentilmente parlare, perlomeno per rispetto all'età, ne ho quasi 73 anni, mi faccia finire il mio concetto. Io voglio dire questo, se un politico o una qualsiasi altra persona, anche non politico, si trova in una situazione a dir poco imbarazzante, sotto alcuni aspetti se l'è mandato a cercare, se l'è cercato, cioè io so che lei non è indagato. Ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Chi la sostiene questa cosa? Chi la sostiene questa cosa? Chi ha detto che se l'è cercata? Ma lei lo sa quante persone sono state poi successivamente assolte nei processi dopo essere state indagate e infangate? Lei lo sa quante persone? Mi lasci anche parlare. Ma no, lei ha parlato, ha espresso un concetto, adesso sto rispondendo a quello che ha detto. Mi scusi, esiste una specie di massima che dice tutti siamo utili, ma nessuno è indispensabile. Cioè, non mi faccia dire che il Parlamento italiano non funzionerebbe più se una persona sola, non una c'entra o due niente o tre, questo, quelli che sono, si dimettessero. Cioè, vabbè, ho capito, Valentino, la ringrazio, la ringrazio. Lei ha espresso chiaramente quello che pensa. Tonino da Torino, buonasera. Parenzo, sì, che succede? Buonasera. Però, mamma mia, mamma. Che succede? Che succede? Che succede? Non riusciamo a spingere dopo, Vabbè, niente. Tonino, dica. Sì, volevo parlare in merito al fascicolo aperto dal procuratore Spadaro nei confronti di Bolchezio, in merito alla sua idea, alla sua posizione. Io credo che sia una cosa impropria, anche perché io credo, a parte innanzitutto volevo dire che io non voto nessuno, per cui non parteggio per nessuno, però credo che lui ha espresso un pensiero che non naturalmente lui, cioè nessuno di noi condivide il gesto che è stato fatto da questo assassino, ma che comunque che ci possa essere, possono avverarsi, verificarsi dei problemi inerenti alla società multietnica. Ha problemi sì, con guardi, la non è che c'è bisogno che... non è che c'è bisogno di una strage di 70 persone di esprimere giudizi su un personaggio, di esprimere giudizi sui pensieri e sulle idee, chiamiamole così, di un personaggio del genere per affrontare il problema delle società multirazziali, per affrontare il problema non esiste questa cosa qua. Borghezio ha commesso un errore, punto, questo è il mio parere. Sì, però dopodiché dico che si possa aprire un fascicolo, quantomeno che si possa poi su quello sono d'accordo con lei, su quello sono d'accordo con lei. Devo dare la linea alla borsa, grazie Tonino. 800 24 00 24. Parenzo, scendi e prendi la metropolitana, mi arriva questo consiglio. Che metropolitana, ha fatto una mossa pazzesca, sono quasi qui sotto. No, di là era lì dove c'era meglio, dove c'era sede del Sole 24 ore. Qui, ma che ne sa della sede del Sole? Tiri il freno a mano, tiri il freno a mano. Tiri il freno a mano. Ecco qua. Borsa. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Ce l'abbiamo fatta. Vogliamo ringraziare il tassista, però, nonostante i litigi, nonostante gli scontri, eccetera. A un certo punto ha detto pure Cruciani, che cosa diceva? Certo Saigon era Disneyland in confronto. È arrivato a destinazione David Parenzo. Qui ringraziamo il tassista che ha dovuto subire le nostre intemerate. Grazie Foggia 48, mi pare fosse 48, Foggia sicuro, 48 non lo so però. Bene, questa è la Zanzara. 800 24 00 24, nel giorno della nomina di due nuovi ministri, caro Parenzo. Francesco Nitto Palma, ministro della giustizia, già magistrato. E molti lo criticano nell'opposizione perché è stato nel passato vicinissimo a Cesare Previti, molto vicino a Cesare Previti, autore a un certo punto di un disegno di legge, la cosiddetta legge Salva Previti, di cui poi magari parleremo. Hai fatto già accadere una cosa, e poi nominato ministro delle politiche comunitarie, se non sbaglio, la signora Bernini, Anna Maria Bernini. Anna Maria che ricordiamo in uno scontro formidabile, prego la regia di mandarlo in onda, in un formidabile scontro con la signora Annarella di fronte alla Camera, ricordi, no? Avendo affrontato la signora Annarella, può affrontare anche il ministero. Anina, sono 16 anni che ci porta di sgratti, ha capito? Signora, io ha portato sempre di sgratti. Rispetto la sua posizione. No, manca a voi, io sempre rispetto, perché siete dei mascalzoni. Dovete rispettare le istituzioni. No, siete dei mascalzoni, gli altri del governo ci stanno. Noi rispettiamo la sua posizione. Perché non vanno via coso? Pizzozzi che stanno tutti segnati alla galera, invece ci vanno. Quelli dovete mandare via dal governo vostro. Signora, esprima la sua posizione. Sono tutti divorziati e poi vanno a piangere. Resisteva davanti alla furia Annarella, Anna Maria Bernini. Allora, ancora ascoltatori direi, però c'è qualcosa sul Sole 24 Ore di oggi che mi sembra su cui è caduta la tua attenzione, caro Parenzo. Mi sembra un qualcosa che riguarda per esempio un paragone tra la Lombardia e la Sicilia, se non sbaglio. La Lombardia e la Sicilia. Beh, leggo testuale questa bella inchiesta del Sole 24 Ore, firmata dal signor Maugeri, dal collega Mariano Maugeri, dove si dice che la Lombardia conta 212 dirigenti, la Sicilia, cari amici della Zanzara, ne conta 3.000. Il calcolo è presto fatto: a ogni lombardo la burocrazia regionale è costata 13 euro, a ogni siciliano 204 euro. funerale più, funerale meno. Signor Lombardo, già intervenuto alla Zanzara temporibus illis, dica qualcosa, altrimenti ci sono solo due parole da dire: a casa, a casa. Bene, Fabio da Milano. Editoriale, come sempre, sobrio e moderato. Fabio da Milano. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, dica. Buonasera ai vostri ascoltatori. Guardi, una battuta brevissima diciamo a difesa dell'opulento rappresentante della Lega dell'Europarlamento. Opulento che significa? Beh, opulento perché diciamo è ricco di esternazioni, non un opulento. Opulento significa qualcos'altro, comunque insomma va bene. Sì, diciamo, vabbè, parli di Borghezio, Fabio, adesso senza definirlo, senza dare. No, sì. io mi domando se sia corretto che questo signore, che io non stimo peraltro, ma che ha affermato un'idea tutto sommato precisa, cioè che voglio dire, alcune idee a difesa della cristianità, a difesa, non so se ricordate la Convenzione Europea quando ci fu e il presidente Giscard d'Estaing non fu assolutamente inclusa nella fondazione della cosiddetta Convenzione Europea le radici cristiano-giudaiche. Quindi mi domando se un personaggio di questo tipo, che pure esprime però delle idee appunto a difesa, sforzandole, andando a scomodare la povera Fallaci e quant'altro, debba essere messo, indagato o forse semplicemente diciamo così, osservato da magistrati, i quali potrebbero più utilmente farsi, sono 630 quelli alla Camera, 315 se non sbaglio, il senatore a vita, farsi un excursus su gli interessi che questi signori hanno nel paese. Vabbè, guardi Fabio, il punto non è fare l'excursus sui senatori a vita, che peraltro non sono nel numero che lei ha detto, lei intendeva probabilmente i senatori. Il punto è un altro. Secondo me le frasi di Borghezio sono criticabilissime, l'abbiamo già detto. Francamente l'iniziativa della Procura della Repubblica, che adesso viene confermata, ma non ce n'era bisogno, anche, no, c'è anche dall'ANSA, c'è un cartaceo dopo le anticipazioni di Radio 24, l'inchiesta aperta a Milano mi pare francamente eccessiva. Lo dico con tutto il rispetto di una persona che conosco come il dottor Armando Spataro, però insomma sinceramente l'apertura di un fascicolo che forse darà vita a un'indagine per istigazione alla violenza. Borghezio ha detto che rinuncerà eventualmente al mandato alla protezione. Hai ricordato bene, cioè l'apertura di un fascicolo significa semplicemente acquisizione di elementi, sì, che verranno poi giudicati. Anche questo ha un costo, è chiaro, no? Cioè il tempo che viene speso per fare questo, però insomma mi pare eccessivo. Vediamo, no? Sì, è eccessivo, ma non sappiamo se oltre a quella dichiarazione che Spataro, che qualcuno della procura ha sentito, c'è dell'altro, no? Questo non lo sappiamo. E che altro ci può essere? Cioè, no, l'acquisizione del materiale della registrazione. Forse qui a Radio 24. C'è stata una denuncia di qualcuno, no? Un esposto in procura, no, non lo sappiamo. Sappiamo che per ora c'è qui il foglio che tu mi mostri, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, la firma del dottor Spataro che chiede al nostro direttore, il dottor Burini, l'audio della puntata di ieri, e questo sappiamo, però poi come andranno le cose. Va bene, Marco da Verona, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, io volevo intervenire a proposito di Borghezio, perché sono d'accordo con lei che la procura si interessi ad un'intervista fatta da un parlamentare, penso che sia veramente eccessivo. Bisogna fare dell'altro. I leghisti, pensi che agli albori della Lega io facevo i militanti delle lezioni di marketing politico. Ed erano persone genuine, sincere, tranquille. Ma chi? I leghisti della prima ora. Sì, ma qui non stiamo parlando dei leghisti in generale, Marco. Nessuno sta criminalizzando la Lega. Stiamo parlando di quello che ha detto il signor Borghezio, appunto. Non dei leghisti in generale. Borghezio io lo condivido, anche perché dovremmo fare un'analisi. Cosa condivide? Scusi, cosa condivide? Il fatto che certi messaggi dati da quel folle in realtà sono lo specchio di una società che va in deterioramento. Dunque lei condivide le idee espresse, se possiamo chiamarle idee, di questo signor Breivik? Sì, ovviamente non nell'atto della violenza, però ma che cosa strana, insomma, quello mi avrebbe stupito, l'avrei mandato i carabinieri a casa. Carabinieri e ambulanza insieme. Ambulanza, sì. Sì, però Marco, possono dire delle sciocchezze. In Norvegia non c'è più la famiglia. Ma che dice? Ma chi l'ha detto? Ma cosa sta dicendo che non c'è più la famiglia in Norvegia? Ma di cosa sta parlando? Le famiglie non ci sono più, non c'è più la società. Ma quando mai? Non è la famiglia. Sì. Ah, in Norvegia non esiste più la famiglia, non esiste una società che si basa sulla famiglia. Ma anche fosse vero, ma anche ammettiamo che non è vero che in Norvegia non ci sia la famiglia e che i socialisti svedesi abbiano distrutto la famiglia, ma questo giustificherebbe un atto criminale? No, quello non lo dice nessuno. No, assolutamente. E allora no. Ma di cosa stiamo parlando? E allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando ma di chi una parliamo? Che è avanti rispetto all'Italia anni e che dovrebbe farci pensare. Ma non diamo riferimenti ideologici o pseudoculturali a questo pazzo scatenato. Non cerchiamo nessuna giustificazione all'atto. Non proviamo ad ammantare, a ricoprire di ideologia folle il gesto del pazzo. Il gesto non è giustificato, però che la società si stia deteriorando. No, nessun però. È un'espressione della società quel soggetto lì, È come lui, probabilmente ce ne sono altri in giro. Comunque, mi pare di capire, Marco, che lei condivide al netto della violenza. Se si può fare questo ragionamento, ma è lo stesso ragionamento che ha fatto Borghezio: al netto della violenza, condivide le idee che ha visto o letto riportate su qualche quottidiano di questo signor Breivik, giusto? Dottor Cruciani, io inviterei tutti a leggersi le scritture di questo folle. No, io non me le leggo, francamente, Marco. Se le leggono, io le leggo, ma non è che le leggo perché penso che abbiano dignità. Ma leggetevi un romanzo, le scritture di questo folle. Le leggo perché per informarmi, ma non penso che dietro ci sia, al contrario di quello che in realtà credono molti, anche analisti, eccetera. Non credo che ci sia, che il motivo non è quello, non è la crescita di questi movimenti dell'estrema destra, eccetera. Cioè, non è che sia un cristiano e allora o un ultra cristiano e allora bisogna prendersela con gli ultra cristiani. Non è che tutti gli ultra cristiani o comunque quelli che si, i tradizionalisti o gli ultra tradizionalisti che non vogliono la società multiculturale. Beh, un po' sì, però. Ma non è che vogliono ammazzare la gente. Ma come esistono i fondamentalisti islamici? Perché i fondamentalisti islamici esistono. Esistono anche evidentemente dei nuovi gruppi che ad esempio in America si chiamano White Power, potere bianco, che teorizzano questo, cioè questa cosa teorizzano? Teorizzano il fatto della teorizzano delle follie, come i fondamentalisti islamici. A parte che ci sono varie sfumature là, ci sono quelli più moderati e quelli estremisti anche in questo. I fondamentalisti sono fondamentalisti anche in questo ambiente, ci sono quelli moderati e quelli estremisti, però ti volevo dire un'altra cosa, che non è che se uno ha delle idee anche estreme poi crea un ambiente favorevole perché uno prenda un fucile e ammazzi 70 bambini, no, 70 però il fondamentalismo ragazzi. esiste quello islamico, esiste il fondamentalismo religioso, certo, in generale, certo. E quindi... Alberto, provincia di Como, buonasera, 800 24 00 24. Sì, buonasera a tutti. Dica. Fare un intervento un po' fuori argomento sulla notizia che è passata qualche giorno fa, secondo me un po' troppo in sordina, e chiedevo la vostra opinione. Qualche giorno fa Milanese dichiara che pagava in nero il ministro, anzi che riceveva in nero, comunque in contanti, dei compensi per l'affitto dell'appartamento che dava appunto in uso al ministro Tremonti. Ecco, questa cosa qui, per un poveretto come me che paga l'affitto, e secondo me per tanti altri, vuol dire che il ministro Tremonti, che tartassa, per essere così un po' populisti, o comunque che in questo momento chiede sacrifici agli italiani, ha un'economia in nero, anche se di poche migliaia di euro al mese, all'anno, quello che sia, a qualsiasi titolo, senza pagare le tasse, cioè quindi senza contratto. Riceveva, comunque aveva un pagava quindi questo milanese, quindi c'era un movimento economico, allora... no? Ecco, questa cosa qui che passa così in sordina, ma cosa passa in sordina? Scusa, a parte che non è passata in sordina, ma comunque cosa passa in sordina? Cioè, secondo lei ci sarebbe un pagamento in nero? Ma mica non è detto, perché il contratto di quella casa è stato registrato a nome del signor Milanese, almeno così sembra. Dopodiché Tremonti corrispondeva ogni mese una cifra a Milanese, cioè non è che pagava in nero qualcuno Tremonti, cioè, dava un contributo a Milanese per stare in quella casa, almeno così è scritto nella memoria difensiva di Milanese. Il problema è un altro, cioè, bisognerebbe capire il motivo per cui questa cosa, se è vera, non è uscita prima. Lo stesso Tremonti, quando ha detto io non ho niente a che fare con questa vicenda, sono lì come ospite, eccetera, non aveva mai detto non aveva mai parlato di soldi. Lo fa a Milanese circa un mese dopo e bisognerebbe capire perché lo fa. Questa è la sostanza. I pagamenti in nero, non mi sembra che ci sia pagamento in nero in questo caso, perché la casa o c'è un affitto o non c'è un affitto regolare. Mi sembra che l'affitto sia regolare, al di là poi dei rapporti che Milanese ha con chi gli affittava questa casa, e c'è Tremonti che dava a Milanese una parte dell'affitto, ma non è che non esiste pagamento in nero, almeno mi sembra. Pagamento in nero no, mancano spiegazioni, sì. Andiamo a Mauro, provincia di Milano, buonasera. Buonasera a tutti, ovviamente telefono per sostenere il grande Mario Borghezio per una ragione. Primo perché il grande Mario Borghezio. Grande, lo conosco personalmente, posso dirvi che ha un profilo umano, e voi mi pare abbiate avuto l'opportunità di conoscerlo, ha un profilo umano ed essendo uomo ha anche la possibilità di sbagliare e di chiedere scusa, e questo mi pare sia un valore aggiunto rispetto a tanti altri personaggi che hanno istigato all'odio e alla delinquenza e fanno anche più orrore. Io parlo, a questo punto mi tocca fare dei confronti, un Renato Curcio che di terrorismo ne ha fatto e ha testimoniato più volte in aule universitarie che non è la sua cultura quella della pace e quella di chiedere scusa. Quindi di fronte a una persona che comunque possa aver sbagliato, o meglio, possa aver espresso un'idea, una categoria di pensieri in malo modo o comunque in maniera del tutto fraintendibile, di fronte alle scuse possiamo renderci conto che questa persona ha la capacità, insomma, di essere perdonata, sì, e non merita una persecuzione anche mediatica. Guardi, non c'è nessuna mediatica. Persecuzione mediatica, le scuse sono state fatte oggi qui a Radio 24 dal signor Borghezio, dopo le sollecitazioni del ministro degli esteri Frattini. C'è un caso internazionale che si è aperto nei confronti della Norvegia, e non solo nei confronti della Norvegia, possiamo dire nei confronti dell'Europa. Ci sono state queste scuse, poi ognuno può giudicare come vuole. E i paragoni con Curcio non li capisco, francamente. Cioè, sono situazioni diverse. Nessuno dice che Borghezio è un criminale, almeno qui non lo si dice, non lo si è mai detto. Io non do patenti di criminalità a nessuno. Abbiamo semplicemente espresso dei giudizi su quello che Borghezio ha detto alla Zanzara. Grazie. 800 24 00 24. Giornata calda anche in casa del Partito Democratico, caro Parenzo. Sì. Giuseppe sì. Fioroni in collegamento con noi. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Bene, bene. Dov'è? Dove si trova? Sono all'assemblea del gruppo del Partito Democratico. Noioso, eh? Una noia mortale, no? No, rispetto. Andiamola in diretta. Delle riunioni. Di che si parla? Dei punti all'ordine del giorno di domani, così. Mozioni e poi il bilancio. Ah, del programma di domani. Si sta annoiando anche lei, dica la verità. Lei. Ho sentito uno sbadiglietto. No, resisto. Resiste, appunto. Però sarebbe meglio fare dell'altro, no? No, vabbè, è il lavoro da parlamentare, perché non lo freghi Fioroni su questo. Vuoi cercare di fregarlo? No, ma è stanco, vedete che è stanco. Lì sulle riunioni, discutere, mozioni. È vero o no? Dica la verità, dai. Sono fresco come una rosa. Si sente dalla voce proprio, no? Sente dalla voce l'entusiasmo, si sente dalla voce l'entusiasmo. Senta Fioroni, ma parlare di macchina del fango, parlare di fango sul Partito Democratico, non so, di class action addirittura, al di là delle querele, uno può fare querele se ci sono gli estremi naturalmente, e le querele sono state annunciate dal Partito Democratico questa sera nei confronti del giornale di Libero per alcune ricostruzioni sulla vicenda Penati. Però parlare di macchina del fango ogni volta che c'è in causa qualcosa che riguarda il centro-sinistra non è un po', suona un po' strano, o sbaglio? Ma io credo che le querele sono uno dei diritti che deve essere esercitato quando ciascuno di noi, ogni cittadino, si sente leso nei propri diritti. E vabbè, io, certo. La macchina del fango, non ho idea di chi la attivi, di chi la guidi. Ma c'è, esiste, ma c'è o no? Se c'è, io sono convinto di una cosa molto, molto più semplice. Quindi lei dissente da Bersani su questo? Questo è interessante. No, dico quello che penso, l'ho dichiarato pubblicamente. Io sono uno che è convinto che il fango ricade sempre su chi lo genera, e quindi se c'è qualcuno che metta nel torbido è solo questione di tempo, ma poi quelli che hanno generato il fango se lo ritrovano ricaduto addosso. Questa scusi è la grande, un attimo, però, d'accordo, è la grande questo convinzione che deve avere chi crede nella giustizia come giustizia, che quando d'accordo. C'è del fango che viene generato ricade addosso. Poi se c'è qualcuno. Ma nel caso qual è il fango? Sì, scusi, io però non si è capito bene dov'è il fango in questo caso. Cioè, ci sono delle inchieste che sono uscite fuori, delle iniziative da parte della magistratura. Dopodiché i giornali fanno il loro mestiere, interpretano, magari qualche volta esagerano, e in questo caso ci sono le querele, oggi riferite in particolare a qualche articolo sul Libero, sul Giornale, sul pizzo del Partito Democratico. Vabbè, ma lasciamo perdere adesso il dettaglio. Guardi, ci sono le querele, perché mia, bisogna pensare che dietro alcuni articoli ci sia la macchina del fango? Io credevo di essere salgato. Io nella mia cultura di vita sono sempre portato ad attendere e a perseguire quelli che hanno generato il fango, e il fango può essere generato da tanti, e quando si sarà palesato chi lo ha generato, o meglio ancora chi lo ha prodotto, se ne assumerà le responsabilità. Okay, però Fioroni, nel caso specifico il fango, dove sarebbe il fango? Se no parliamo per iniziati. Allora, non tutti hanno letto Libero oggi. Il signor Becchis, il collega Becchis, oggi ha fatto un pezzo dove c'è scritto, il titolo è "Questione immorale, il PD impone il pizzo anche ai suoi lottizzati. I manager nominati nelle imprese pubbliche devono versare una percentuale al partito, una grave violazione della legge". La mia domanda, che leggo questa inchiesta da stamattina alle 7, è vero o non è vero? E questo è fango? Questo è il punto. Guardi, io non secondo ho letto Libero, ma lei me ne farà una colpa, ma diciamo che io non ho letto, no, per carità, non ho letto Libero, perché poi ho una grande considerazione dei mezzi di comunicazione, però credo che c'è tanti modi di comunicare. Il giornale il giorno dopo fa sempre una fine che è molto temporale, molto limitata nel tempo. Cioè serve per incartare il pesce, insomma. Per incartare serve il pesce, per foderare i cestini della spazzatura, serve per tante cose, lo sappiamo tutti. Il giorno dopo, quella è la funzione del giornale, sia quello che è macchina del fango, se ce n'è, sia quello che non è macchina del fango. E quindi se uno contestualizza al giusto posto l'oggetto che lo fa inquietare, già ha fatto una relativizzazione dei problemi che si crea, perché poi i problemi ce li creiamo se noi assolutizziamo. Se noi invece relativizziamo che fine farà il giornale che lei, o altri giornali che lei ha citato, che vanno in quel posto domani, o già ci sono dati stasera, già tutti noi però il partito ha promosso delle azioni giudiziarie, dunque non è che si può tanto querela, relativizzare la querela. Io credo che appunto c'è un fatto: il PD, come PD, il pizzo non ha, il Partito Democratico non ha mai chiesto il pizzo a nessuno. I propri iscritti che serenamente e consapevolmente si iscrivono al partito e decidono di contribuire in maniera da socio sostenitore per le responsabilità che rivestono, e che sono, appunto, adesso io non so qual è l'articolo che non ho letto, le responsabilità che rivestono, responsabilità che gli ricadono perché hanno rivestito una carica pubblica grazie al consenso degli elettori e del partito che l'ha messo in lista, che decidono di sostenere il proprio partito, mi sembra un finanziamento lecito della politica. Io verso 1500 euro al mese al mio partito e lo No, ma lei è diverso, però, perché giustamente lei fa la distinzione, cioè chi viene eletto dà una quota al partito, ed è giustissimo, bene, voi lo fate voi e pochi altri. Però se devo leggere, stando a questa inchiesta di Libero, secondo sarebbero sarebbero i manager nominati delle imprese che devono versare. Questo dice Becchis. Quello che dice il dottor Becchis non lo so, perché non l'ho letto. Io so che negli statuti regionali del nostro partito, che sono autonomo, prevedono che coloro che sono nominati all'interno di organismi di secondo grado delle assemblee elettive, che quindi sono nomine politiche su richiesta di requisiti, che partecipano al finanziamento trasparente di un partito, mi sembra una cosa perfettamente legittima. Dunque, se qualcuno nominato in aziende pubbliche, eccetera, invece versasse qualcosa, sarebbe grave? No, se dipende dall'azienda pubblica, è un'azienda nominata con un meccanismo trasparente e lecito, è perfettamente, cioè non credo che ci sia un solo partito provinciale o regionale che chieda a un signore che siede in un consiglio di amministrazione privato o pubblico. Privato, a nome pubblico. Ma pubblico, cioè, vediamo di capirci, il consorzio delle biblioteche nominato dal comune di Viterbo e dalla provincia di Viterbo, eletto dai consigli di quella provincia, elegge, fa una nomina politica su persone che hanno i requisiti. Se poi quelle persone che hanno i requisiti, ritengono di iscriversi al Partito Democratico, ritengono di contribuire spontaneamente al Partito Democratico, non capisco. Ma questo qua è l'ipotesi virtuosa, l'ipotesi insomma meno virtuosa è che in realtà sia questa cosa sia quasi fissa, cioè sia o quasi obbligatorio se uno viene nominato in un almeno da quello che no, qui questo... c'è scritto, guardi, qui è un virgoletta, cito il pezzo di Becchis. Il PD della provincia di Lodi, faccio un nome a caso in questo lungo articolo, il PD della provincia di Lodi impone, scrive Becchis, un pizzo del 10% anche a coloro che svolgono incarichi pubblici in enti, istituzioni, consorzi e società. È quello che secondo... appena detto io. Quello che quindi che è vero. Io. Cioè non è che impone niente, perché quello è un regolamento, lo statuto, il regolamento finanziario che riguarda coloro che intendono iscriversi al Partito Democratico. E quando sono iscritti al Partito Democratico, se vengono scelti per le loro professionalità e hanno l'opportunità di stare all'interno del consorzio biblioteche, come gli ho fatto l'esempio, danno il 10% dello stipendio, danno il 10% dello stipendio. Ma lo danno loro, se non lo vogliono dare non lo danno. Ma questo beh, no, il requisito, la cosa fondamentale è che lo danno. Altrimenti non vengono nominati. No, questa è una deduzione da calunnia. Non è così. Non è così. Questa è una deduzione da calunnia. Benissimo. Non è così, perché questo lo aggiunge lei, non gli faccio, lo aggiunge lei. Dice solo che se uno è membro di un consiglio di amministrazione del consorzio biblioteche, nominato all'interno di una nomina politica, parliamo di nomine politiche. Sì, però qui dice che qui usa questo termine, qui io cito sempre l'articolo. Nominati per maniera elettiva come nomine di secondo grado da membri eletti del Partito Democratico con designazione politica, tolta la maggioranza e tolta la minoranza. Quindi facciamo un caso di specie. Facciamo un caso che capisce anche chiunque. Il compagno Cruciani viene nominato dal Partito Democratico nella società che gestisce le metropolitane, no? E quindi il compagno Cruciani, quando viene nominato nel consiglio di amministrazione, deve dare una. Non so come viene. E questo è il punto? Io gli faccio un esempio, io faccio il mio esempio, cosa che conosco, se il Consiglio Comunale di Viterbo e la provincia di Viterbo elegge nel proprio ambito i membri che devono rappresentare il comune e la provincia all'interno di un organismo di secondo grado che è il Consorzio Provinciale delle Biblioteche, in base ai requisiti che hanno, se loro vengono eletti e se sono e hanno deciso autonomamente di essere iscritti al Partito Democratico, se si iscrivono al Partito Democratico e lo desiderano, versano il 10%. Non è vero quello che dice lei, che non vengono eletti se non versano il 10%, perché credo che questo virtuosismo c'è solo chi ritiene di dover concorrere al finanziamento del partito. Va bene, allora abbiamo la pubblicità. Infatti poi torniamo. Non è un caso che lei cita, ad esempio, Lodi, dove è una provincia dove credo che i nominati del Partito Democratico ovunque siano, non credo che siano molti. Va bene, abbiamo la pubblicità, torniamo tra un secondo. 800 24 00 24. Eccoci qui, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta con Giuseppe Fioroni del Partito Democratico. Vorrei capire da Fioroni però, perché quando si parla di macchina del fango bisognerebbe dire, è in azione, dice Bersani, la macchina del fango contro il Partito Democratico, ma dov'è? Dove si annida? Chi sono i burattini, i burattinai di questa macchina del fango? Perché sennò altrimenti uno parla per slogan, perché dalla macchina del fango se ne parla da chi c'è? Berlusconi dietro? Chi c'è? Ma guardi, io non posso fare l'esegeta delle parole di Bersani, perché questo credo lo dobbiate chiedere a Bersani. Io posso dire quello che penso io e ritengo che quando la giustizia fa il proprio lavoro, alla fine quelli che hanno generato fango gli cade addosso e gli danno i danni. Ho capito, se hanno generato. Io credo che. Cioè, il fango c'è, secondo lei, onorevole Fioroni, il fango esiste? Ma guardi, il fango c'è di molti tipi: il fango c'è di chi commette azioni che non dovrebbe commettere, c'è di chi riferisce di azioni commesse che non sono state commesse, e c'è di chi astratamente su azioni non commesse li divulga. Sono dei tre tipi: quello che lo compie se lo ha compiuto e genera fango, quello che lo divulga, ma io non faccio né magistrato nessuna conoscenza dei fatti, per questo mi limito semplicemente a dire che noi se diamo tempo al tempo, e non credo che queste cose, noi il Partito Democratico c'è un altro problema, di trovare le soluzioni dei problemi della gente, tutto prima, e fare in modo che in futuro non capitino mai più cose che ci coinvolgano, punto. Questo è complicato, se non si mette mano soprattutto una riforma radicale del rapporto tra politica e organismi negli enti locali, società degli enti locali, cose di questo tipo. Meno politica, meno Stato, meno presenza dei partiti, questo è fondamentale. Vabbè, sì, senta Fioroni. Posso dire una cosa? Meno presenza dei partiti, io sono perfettamente d'accordo a non occupare le istituzioni, metterci persone capaci e competenti per merito e verificare i risultati di quello che capitano, quello è quello che occorre, perché la semplice distinzione tra tecnico e politico abbiamo dimostrato nel corso dei tempi, basta vedere l'andamento delle tangenti in sanità, che non ha funzionato in questo modo. Senta, tra Tedesco e Abindi lei con chi sta? Ma la Bindi, io la sento bene, io sto punto che prendo. La Bindi ha detto con particolare veemenza delle cose ovvie. Il senatore Tedesco non le ha condivise e ha fatto le sue scelte e se ne assume la responsabilità delle scelte che ha fatto. D'accordo, però lei... Le dispiace che è uscito dal PD o no? No, io non mi dispiace perché ha assunto comportamenti che non lo portavano. Insomma, io non sono stato uno che ha chiesto mai al senatore Tedesco di entrare nel PD. Il senatore Tedesco c'è entrato, ha assunto dei comportamenti che sono stati censurati, gli è stato chiesto di dimettersi conseguentemente con le sue dichiarazioni e non con le dichiarazioni del Partito Democratico, ma con le sue scelte, ha detto delle cose, non le ha fatte, è un problema suo personale. La Bindi, scusi, però perché la Bindi poteva dire le stesse cose con meno veemenza. Troppo veemente, che significa? Cioè, che significa troppo veemente? Significa che io sono tra coloro che ritiene che la giustizia è un qualcosa che è tale se è libera e indipendente, per cui non può essere tirata dalla giacca né nelle lotte interne di un partito né nelle lotte interne tra partiti. Dunque le è sembrata un po' Torquemada da questo punto di vista? Dire... Non mi è sembrata, Tony, io le cose che ha detto, la finalità le condivido, nel tono abbiamo comportamenti e temperamenti diversi, io avrei usato altri toni. Sa che spesso la forma è anche sostanza nei momenti caldi. Sì. Dunque, quindi il presidente del partito ha sbagliato nell'usare questi toni, chiaro. Senta, ma la questione delle perché il Partito Democratico chiede le dimissioni dal Senato di Tedesco e non chiede le dimissioni dal Consiglio regionale di Penati? Non ci sono due pesi e due misure, secondo lei? Ma guardi, ci sono due aspetti sostanzialmente diversi. Penati. E perché diversi? Perché Tedesco ha ricevuto una richiesta di misura cautelare visionata da un giudice terzo. Poi io comprendo anche i colleghi senatori che hanno fatto una valutazione di merito e hanno detto nel merito, non conosco le carte, che non c'era quella esigenza. Penati ha ricevuto un avviso di garanzia che è uno strumento a tutela del cittadino che sa che stanno facendo delle indagini preliminari sul suo conto. Io onestamente riconosco che Penati ha fatto bene a dimettersi dai ruoli di rappresentanza istituzionale, a dimettersi dalle cariche di partito. Ora che uno strumento a garanzia del cittadino diventa lo strumento per il quale il cittadino abdica alle cose che ho capito, però sono in molti nel suo partito a dire che un'indagine basta per dimettersi, eccetera. Sono in molti, ma sbagliano. Se ne faranno una ragione. Io credo che quindi vale anche per Berlusconi. Quindi vale anche per Berlusconi. Guardi, io credo che Berlusconi non abbia questo problema perché a sentenza è passata in giudicato, non mi sembra che si preoccupi di dimettersi da nulla, neanche dalla propria storia, quindi di che stiamo parlando. Non banalizziamo perché questo è quello che contribuisce a fare confusione. Stiamo parlando di un avviso di garanzia che è uno strumento a tutela del cittadino con sentenze passate a giudicate o con sentenze che non si sono fatte emettere facendo leggi che abrogavano un reato o prolungavano i tempi o rendevano incompatibili coloro che dovevano giudicare. Quindi fare di tutto ho capito, però siccome che non funziona. No, ma non c'entra niente, infatti Berlusconi, però le dico una cosa, che siccome l'idea è quella estromettere dalla vita politica anche quelli gravati da un sospetto, perché questa è la direzione in cui va il Partito Democratico, è inutile nascondersi. E allora io credo che non sia questo Però sembra questo, sembra questo. Secondo me se è questo l'istituto del diritto, è un istituto sacro, che non, il sospetto è un, i sospetti possono essere costruiti, la calunnia è un vecchiello, i fatti giudiziari non si commentano ma si rispettano. Questo però la signora, la signora Bindi, che è il presidente del partito e rappresenta una parte importante, insomma con i sospetti ci va giù duro. Non facciamo dire, la Bindi ha parlato di Tedesco e ha chiesto al Tedesco di dimettersi dopo che il senatore Tedesco aveva chiesto la propria autorizzazione all'arresto. Ora io posso non condividere qualche espressione, ma nel merito ha fatto un ragionamento conseguenziale. Il senatore Tedesco ha detto autorizzatemi all'arresto, poi il Senato ha deciso di non farlo, la Bindi che aveva sostenuto la legittimità della richiesta di autorizzazione all'arresto ha ritenuto di dover chiedere le dimissioni. Ma stiamo parlando allora di intanto misura, l'assessore Tabacci a Milano, l'assessore Tabacci a Milano, di una misura cautelare vistata da un giudice terzo. Intanto l'assessore dall'inizio di un'indagine preliminare, solo perché facciamo capire ai cittadini che parliamo. Sì, no, ogni situazione è diversa, per carità. Certo. Queste non sono situazioni generiche. Cioè, sono situazioni diverse. È l'avvio di un'indagine preliminare. La custodia cautelare è un passaggio ulteriore della magistratura per impedire il reiterarsi, la fuga, l'inquinamento delle prove, vistato da un giudice terzo. Vabbè. Quindi, diciamo, è qualcosa di molto più pesante, ma di cui vanno lette le carte. Allora, intanto l'assessore Tabacci, assessore al bilancio a Milano, dice: abbiamo introdotto l'IRPEF per rigore morale e come esempio per i giovani. Bene, l'addizionale IRPEF a Milano per rigore morale e esempio per i giovani, credo che si riferisca alla questione del buco di bilancio su cui si potrebbe discutere molto. Senta Fioroni, lei che cattolico eccetera, alla fine si è allineato sulle posizioni per esempio di coloro che pensano che quando uno picchia per esempio un omosessuale deve essere punito di più rispetto, che ne so, a quando uno picchia un cittadino, una qualsiasi altra persona, o guardi, sbaglio? Io difficilmente, è difficile che mi allinei con qualcuno, io solitamente al massimo posso condividere quello che penso con gli altri, come è giusto che no sia. Vabbè, ma è allineato per capirci, insomma. No, ma lo dicevo non per polemizzare con lei, lo dicevo perché volevo chiarire, ecco, questa esemplificazione. Oggi c'è un bel articolo sul Corriere della Sera di un costituzionalista che spiega molto bene il testo di legge che noi abbiamo oggi provato ad approvare. Era un testo di legge che riproduce quello che è il Trattato di Lisbona, recepito dal Parlamento, approvato dal Parlamento, e che dà l'aggravante. Però lei pensa che le pene vadano aggravate perché uno picchia un omosessuale o perché uno si rivolge a un omosessuale? Non è questo. Fattispecie della legge. La fattispecie della legge che è spiegata con chiarezza di tutti, non ho abbiamo letto tutti male. Non abbiamo letto tutti male. Se lei lo legge, l'onorevole Concia, però l'onorevole Concia, no, sua compagna questo, di non dice la stessa cosa. Non è che se io do uno schiaffo a un cittadino italiano e lo do a un omosessuale c'è una differenza. La differenza è il motivo della mia condotta, qualora la faccia, perché quel soggetto è ritenuto un soggetto diverso. Certo, c'è l'elemento della discriminazione. Di quello sto parlando. Se la mia motivazione... Se io voglio dare uno schiaffo a quella persona, certo, non è che se do uno schiaffo e poi si scopre che è omosessuale la mia pena aumenta. Sto dicendo, se gli do uno schiaffo perché voglio colpirlo in quanto omosessuale, questa cosa va punita di più rispetto a uno schiaffo ad una persona così, perché penso che quello sia un ciccione o che ne so. Guarda, io gliela dico con una banalità molto semplice, ma che è un concetto molto chiaro. Nelle lettere di Barbiana, di Don Milani, c'è una spiegazione. Don Milani, lui spiegava le cose molto bene sul termine della giustizia, che dividere in parti uguali tra soggetti diversi non è fare la giustizia, è applicare l'ingiustizia. E dunque? Lo spieghi al volgo, diciamo. E dunque, se ci sono coloro che perseguono la discriminazione del diversamente abile o dell'omosessuale o di quello per razza o per sesso o per colore, o per colore della pelle. Ma questa cosa è infinita, cioè allora facciamo una legge per chi, che ne so, cioè per chi è più grosso, diciamo, più grasso e magari viene discriminato. Diciamo dal punto di vista dello statisticamente rilevante, i fenomeni di razzismo e di persecuzione e dell'ostracismo avvengono perché ciò che è rilevante. Bene, bene. Poi, grazie a Fioroni di essere stato con noi. Abbiamo non vorremmo la pubblicità, trattenerla pubblicità. Troppo visto che c'è quella pubblicità, riunione importantissima. Pubblicità, grazie. Ecco, non vorrei che poi mi perdessi qualcosa di essenziale. Arrivederci. siamo qui alle 20:15. Siamo tornati. Se siete ancora sopravvissuti, se siete ancora vivi, cari ascoltatori della Zanzara, 800 24 00 24, ma leggi qualcos'altro. Certo che sono vivi, certo. Leggi qualcos'altro, basta noia, basta, mi sono annoiato mortalmente, detto con tutto il rispetto dell'onorevole Fioroni, perché ma mi sono annoiato mortalmente, non so, sarà stata anche colpa nostra. Lo dico perché io voglio esprimere quello che sento, quello che vivo, la Zanzara è fatta così. La Zanzara è fatta... È passione, amore, rabbia, disprezzo, come quello che proviamo, cari amici, in questo momento a leggere l'ottimo Sole 24 Ore, e sia detto dal sottoscritto, pagato da questa azienda senza alcuna piaggeria. Però una nuova inchiesta del Sole ci informa che i parlamentari hanno una liquidazione da record in Italia, amici, gli assegni di fine mandato e i vitalizi più ricchi dell'Unione Europea, anche le indennità sopra la media della UE. E allora, cari amici della Zanzara, ci sono le solite due parole da dire in questa circostanza: a casa, a casa. No, però in questo caso direi basta. Che è successo, onorevole Gianni? Che è successo? Smetta, con questi luoghi comuni, onorevole Pippo Gianni, del PID, sono io. Popolari per l'Italia di domani. Ma sono venuto oggi. Una cosa incredibile. Meno male che anche lei si autopiglia per il culo, perché quel nome. Sì. Chi è che io voglio sapere chi è quel criminale che ha dato questo nome? Sa che è un crimine contro l'umanità. Una speranza. Ma una speranza. La chiamava Pizza Margherita, era più simpatico. Come PID? Popolari, chi è che l'ha inventato? Popolari per l'Italia di domani. Il nome del criminale. Non possiamo dirtelo perché è un segreto d'ufficio. No, è un segreto d'ufficio, adesso non esageriamo. Popolari, ce l'hai anche il segretario in realtà, o no? No, io sono il vice segretario. Ah, il vice? Chi è il segretario? Il signor Romano? Sì, è lui. Lei è il vice di Romano. Esatto. Il vice di Romano. PID. Ma uno dice, ma perché PID? Popolari per l'Italia di domani. Perché non oggi? Non avete un inno ancora, no? Non ce l'abbiamo perché ci stiamo studiando. Io sono un grande tenore. E quindi come lei è un grande tenore? Sto studiando come fare questo benedetto inno del PID. Dunque, siamo in attesa dell'inno del PID. Abbiamo il traffico, l'abbiamo già mandato? Sì, l'abbiamo già mandato, siamo a posto. Benissimo. Allora, qualche ascoltatore, poi andiamo con l'onorevole Pippo Gianni, che è scoppiettante. Pippo, in realtà si chiama Giuseppe, credo. No, detto sì. Pippo Giuseppe, Gianni. Detto tu Pippo, devi sapere che il signor già Pippo, deputato dell'UDC. Già deputato dell'UDC. Sì, già deputato dell'UDC. Il signor Pippo Gianni è diventato famoso. Medico, se non ricordo male. Medico, sì. Medico. Medico, Pippo Gianni, a un certo gastroenterologo, endoscopista. Anche gastroenterologo? Sì. Hai problemi? Questo è terribile. Perché è terribile, scusa. Perché mettono questo tubo dentro lo stomaco. Sotto e sopra. Sotto anche? Sì. Non scendere per la colonoscopia. Ecco, quella è meglio. Famosa, diciamo, colonoscopia. È terribile quella. Diventò famoso anni fa, quando disse a un certo punto in un dibattito sulla quota rosa, con una frase, disse una frase che restò mitica: le donne ci devono scassare la minchia. Ah, così disse. Detto proprio così. Esattamente così. Disse così, naturalmente. Vagamente misogino. Perché? Ma non era le donne. No, le donne, insomma, quelle. Comunque, la frase poi uscì così e io l'ho sposata quella frase. Cioè, le donne non ci devono rompere la minchia. Scassare è diverso. Scassare, è un termine abbastanza preciso, puntuale, che la dice lunga su quello che è il concetto. E qual è il concetto? Di minchia o di scassare? Non ho capito. No. Di scassare. Ah, di scassare, chiedo scusa. Quello della minchia è abbastanza chiaro. Sì, ecco. Va visto sotto un'ottica diversa. Certo, sì. Onorevole questo signore, comunque. Vabbè, adesso che c'è. No, andiamo avanti. Cioè, ha espresso un concetto. Sì. Perché secondo lei può dire quello che le pare, io no? No, ma questo pure è giusto. Vediamo, perché? No, infatti, lei vuole fare il fazioso? No, no, non sono fazioso. Vuole costringermi come lotta alla rissa. E non la voglio fare la rissa. Neanch'io. Voglio ragionare. Non voglio narcotizzare questa trasmissione, come è già avvenuto in passato. Recentissimo. Questo lo dite voi. perché altrimenti qui finisce la storia della zanzara. No, beh, certo, appunto. No, siccome, cioè, profeta di sciagura. Quella frase era sostanzialmente un invito ad evitare che ci fosse una limitazione numerica nella percentuale di persone di sesso femminile che potessero accedere a qualsiasi carica, a qualsiasi. Cioè, lei dice perché, perché prevedere le quote? Il 30%, il 40%. E non il 90%? Se sono capaci, se sono queste brave. Perché ho capito, però quando lei si rivolge così, quando lei dice ma le così donne l'ho detto, non ci devono scassare la minchia, c'era qualcuno che insisteva che per forza dovevo votare quella legge, allora lei come si, che lei, io ero contento, ma cortesia, siccome mi ha come se non ha inveito chi lei è uscito dal cuore, diciamolo chiaramente, ma come disse proprio, lo ripeto un po', come disse non è che ci scasse la minchia così, perché era una donna quella, naturalmente. Sì. A Prestigiacomo era. La signora Finocchiaro dice che lei era una donna. La signora Finocchiaro dice che lei è il più maschilista che c'è in Parlamento. Ma no, quando l'ha detto sta cosa? Sì, se l'ha detto, sono contento, perché ha buon gusto e ha un occhio lungo. Ah, cioè, cioè in che senso? No, le donne secondo lei devono fare la calzetta? Lei piace, il modello di donna è quello che sta a casa e pulisce e lava i piatti, no? Io piaccio alle donne? Non so, glielo chiedo, lei piace alle donne, sì. Lei è sposato? Sì. Però piace alle donne. Sono due figli. Bene. Maschi. Bene. Maschi, questo è un po' questo... L'ha detto con un certo orgoglio. Sono due figli maschi, non sono due donne, sono maschi. Cioè meglio, dici? No, meglio. Sono maschi, punto. Personaggio incredibile, onorevole Pippo. Ma chi c'era prima? No, Raffaele da Milano, buonasera. 800 24 00 24. Allora, buonasera Cruzzani, buonasera Parenzo. Sì. Allora, innanzitutto volevo ringraziare la trasmissione, perché sembra di avere quattro amici nel mio salotto qua in macchina, sembra di chiacchierare con degli amici con le opinioni anche diverse ed è bellissimo. E poi niente, volevo essere solidale con il collega tassista di Roma, che praticamente noi lavoriamo in queste condizioni anche qua a Milano. Ma cosa sono sti rumori? Niente, è il radio taxi, siccome sto lavorando purtroppo devo anche lavorare. Certo, sta lavorando. Ecco, certo, sono l'astronave. Meno male che c'è lei che lavora. Conseguenza voleva essere solidale, perché praticamente ma con chi? Ma non c'è da essere solidale col tassista che ha portato Parenzo qui e che si è un po' arrabbiato con me perché volevo che andasse più di fretta, insomma. Non si è arrabbiato con lei, solamente che viviamo 10 ore nel casino totale. Questa è la strada, è la situazione peggiore in cui una persona può lavorare, è la situazione peggiore. Di conseguenza siamo veramente coi nervi a fior di pelle noi tassisti. E allora, lo so, però Raffaele, io insistevo col suo collega perché ci portasse qui Parenzo, per iniziare la trasmissione. Non conosco il tassista, però le posso garantire che avrà fatto il possibile per portare il signor Parenzo. Cioè, una difesa di categoria, mi pare di capire. Ah sì, un po' corporativa. Una casta, una difesa di casta. No, Raffaele. Perché non è una casta? Quali tassisti? Adesso non mi faccio inimicare i tassisti. Ma tutti, straordinari professionali, politici. Tassisti, Raffaele, tributaristi, avvocati, medici. Medici pure. Ascolti, dottore. Caste con dir. Dottore, io la invito a vendere il taxi, la faccio viaggiare con me una settimana. Lei dopo una settimana dirà fate lavorare. Ha capito? Perché va bene, Raffaele. Grazie. Mario da Genova. Mario, buonasera. Buonasera. Ciao, Raffaele, mi dispiace per te. Buonasera, signor Cruciani. Perché lei è tassista pure lei? Ma no, mi fanno pena quelli che lavorano, per quello. Vabbè, insomma, adesso lavora, non è che stai lavori forzati, sta facendo il suo lavoro. Mi faccio pena, lo so, capito, ma mi faccio pena anch'io. Volevo salutare anche il suo gregario. Volevo dire, piccola postilla per quanto ho detto prima, quando beccate un giargiana puro, vi fa girare come delle trottole. Scusi Mario, però scusi un attimo, questa qua, in questa trasmissione, anche se in maniera piuttosto rozza, si cerca di parlare la lingua italiana, così più o meno, poi ogni tanto decliniamo al siciliano, ogni tanto decliniamo al veneto, eccetera, però ci spieghi perché altrimenti non capiamo. Ho capito, non vi faccio la gag di 105 perché ve la meritereste, non ve la faccio. No, ma ci deve spiegare che cosa sta dicendo. Sta parlando per linguaggio incomprensibile. L'argomento serio era questo. No, ma ritorniamo. Ma cos'è il giargiana? Giargiana, penso che quelli della Lega lo chiamano Terrun. Quindi lei ce l'ha con me, allora. Ah, ce l'ha con me. Ah, vergogna. Ma quando beccate quello buono, vi fa girare come delle trottole. Perché? Perché sono molto più furbi. Noi abbiamo in Parlamento opportunisti e giargiane. E siamo rovinati. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè. Perché non viene lei? Che c'è a raccontare qualche cosa? Io sono il Giorgiana. Con il Giorgiana, purtroppo, non si deve adoperare la lingua, si dovrebbero adoperare le mani, ma purtroppo la legge ce lo impedisce. Ma diventa difficile. Cioè, scusi, non ho capito, perché lei, con tutti quelli che lei chiama, terroni, vorrebbe utilizzare le mani? Ma comunque, meglio è difficile, mi farei molto male. Non capiscono altro. Dove si trova esattamente? In quale zona di Genova? È un atteggiamento sanitario, è diverso. Dove si trova esattamente, signor Mario? Metto un pochettino a cuccia, ragazzo, che devo esprimere il mio pensiero. Perché il mio pensiero, la mia chiamata era per quanto riguarda Borghezio, l'avete messo in mezzo. Avete fatto una bella pantomima, l'avete messo nei guai. Quando lei, da garantista, o da pseudo garantista, perché lei è uno pseudo garantista, quando c'è la gag, ci fa la gag e ci marcia sopra. Allora, Borghezio l'avete messo in mezzo. Borghezio ora l'hanno messo in croce per colpa sua e del suo Parenzio. Ho capito. Benissimo. Dove si trova esattamente? Ha detto lei quello che doveva dire. È in uno stato di salute terribile. Dove si trova esattamente? Una per volta magari vi ascolto, ma tutti insieme. Sì, dove si trova esattamente? Sto per mangiare, milanese. No, ma in che zona? In che zona di Genova? Genova, Ponente. Vicino all'ospedale? Aspetti un attimo, aspetti che le mandiamo una macchinetta. L'ospedale, c'è bisogno per voi l'ospedale. Stanno arrivando, non si preoccupi. Sereno, calmo. Stia tranquillo. Hai ragione. Sì, calmo, stia tranquillo, è grave la situazione, ma stia tranquillo. Se poi questi signori dovessero chiederle qualcosa dei dati personali, non si preoccupi, agente. Manderemo a Borghezio. Se le chiedono di mettersi una giacca anche comoda che si chiude dietro, con dei fili dietro. Giacca bianca con dei fili dietro, non si preoccupi, è una bella giacca, insomma, bianca. Tiene le mani dietro, tenga le mani legate. Tranquillo, stia sereno. Che zona di Genova? Chi me la dà la buonasera? Non si vede, i signori ci pensano loro. Danno anche la minestrina stasera con calma. Comunque, dove si trova esattamente? Buonasera a tutti, veramente, perché tanto poi alla fine. Ma dove si trova esattamente? In che zona di Genova si trova? In Italia ognuno pensa al suo piatto e pensa di mangiare sempre di più. E purtroppo è chiaro. È tutto chiaro. Il ragionamento è chiarissimo. No, vorrei sapere la zona esatta di Genova, poi la libero, non si preoccupi, tanto adesso arrivano i signori. Zona esatta di Genova. Ma guardi che mi sono già ricoverato da solo, lei non lo sa, ma bravo, era ora. Chi l'ha fatto uscire? Chi è stato il mascalzone? Chi l'ha fatto uscire? Chi? Borghezio. Ascolti, sono viceré. Usciti a braccetto con Borghezio. Ascolti, viceré, io per voi ho un gran rispetto, lo sa per quale motivo? Perché avete il culto della famiglia, che è una cosa che per me è una cosa veramente sacra. Questa è una cosa veramente rispetto veramente. Ma di la famiglia, ma che dice? Ma è gravissima la situazione. Fate presto. Bene, grazie a Mario da Genova. Avete il culto della famiglia. Signor Gianni, ma questa storia dell'omofobia, no? Dei gay che vogliono, cioè la comunità omosessuale chiede maggiore protezione di fronte a qualche reato che si commette nei loro confronti, lei è d'accordo? Ma perché, scusi? Lei è cattolico? Cattolico? Io sono perché ci sia una parità diffusa fra tutti, uomini, donne, bianchi, neri. Omosessuale com'è? Un po'... Quello che è, sono problemi suoi, non sono problemi. Cioè ha dei problemi, dice lei. Lui? È un omosessuale in generale. No, perché deve avere lei problemi? Dice sono problemi, sono problemi suoi. Sono problemi suoi, se c'ha problemi non lo so. Se chiede protezione avrà problemi, scusa. Se chiede protezione avrà qualche problema. Contro le discriminazioni, cioè è molto grave. Ma che... chi lo discrimina? Se per strada viene detto a uno... sei un frocio maledetto, è un reato, secondo me. Ma guarda, secondo me è una questione di gusto. È un reato. È di cattivo gusto quello che dice questa frase. Non deve essere un reato. Perché deve essere reato? Omosessuale maledetto non è un reato. Io sono d'accordo, però in questo caso. No, perché dobbiamo... Abbiamo perché già c'è tanti l'aggravante... Problemi. Abbiamo già tanti problemi, che significa? Cioè, abbiamo problemi di lavoro, di sanità. Ma che c'entra questo? Perché dobbiamo avere anche questo problema della... È un problema? Di mettere un reato è un problema, cioè, non è un problema. Cioè... No, il problema è che c'è il maleducato, il cafone, che sono fatti suoi quelli lì, e si rivolge a chiunque, all'omosessuale perché è omosessuale, a quello perché è politico, all'altro perché è cameriere, quelli sono problemi suoi. Cioè, l'imbecille dice, lo trovi perché sempre. Dobbiamo fare una legge? L'imbecille lo trovi sempre, non è una questione di legge, è una questione di cultura. Ma se lei vede due omosessuali che si baciano per strada, che pensa? Francamente non mi piace. Non le piace? Se lo facessero a casa loro. Ah, a casa beh, loro? Come a casa? Perché lo devo far vedere a tutto il mondo? In pubblico no, in pubblico no. Non mi piace. Ma onorevole, sono seduti su una panchina, sì. Si danno un bacio. Con tenerezza. Con tenerezza. Vai, certo. Un'effusione normale, sì. Lei dice, non mi piace. Ma non perché le piace? Non mi piace? Non mi piace lo stesso. Io sono un tradizionalista conservatore, mi piace ancora guardare un uomo e una donna, se mai mi fermasse a guardare, se mi capitasse. Sì. Che io cerco. Quindi, di... Un uomo e una donna possono baciarsi sulla panchina di Campo dei Fiori, due omosessuali non possono. Non la vedo molto. Lei bene. È un reazionario, detto col massimo sì, rispetto. Sì, francamente sì. Sono un reazionario. Sì. Come lotta, se come questo, lotta l'onorevole Gianni. Questo è reazionario. L'epiteto col quale lei mi vuole questo additare. Questo è l'epiteto, esatto. Questo allora è l'epiteto. Respingo con fermezza questa sua osservazione, questa sua affermazione, perché non mi piace. Non gli piace. Non posso dire. Non è che lo vuole vietare. Ma perché gli deve piacere? Ce lo vorrebbe vietare? No. Non vietare. Lo vieto, ma non mi piace. Lo facessero a casa loro. Sarebbe meglio. Anche un ragazzo e una ragazza sarebbe più opportuno e meno sgradevole. Ma sarebbe preferibile. È meno sgradevole, però è meno sgradevole. Cioè, se lei vede due bocche. Cioè, sei quasi abituato a vedere un ragazzo e una ragazza che si bacia. Per me è una novità. Vabbè, due tutto uomini, cambia, no? Il mondo due cambia. Uomini o due donne che si baciano. È una novità. Per carità. Ma è l'amore, è la vita. È la passione. L'amore è sentimento. Quello diventa un'altra cosa. E che diventa? Perché non... Sesso. Due uomini che si baciano è sesso. Ah, non c'è sentimento. Anticipo, dice. Non c'è sentimento. Ah, un anticipo, non c'è sentimento. È un anticipo di cosa? Al sesso. Un anticipo al sesso. Ma perché con tutto rispetto? No. Allora dobbiamo chiamare qui anche qui l'ambulanza. No, Borsa, torniamo non lo so su questo, a chi prenderanno. Scusa. Borsa, torniamo su questo. Torniamo su questo. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali. Eccoci qui con l'onorevole Pippo Gianni del PID Popolari per l'Italia di domani. A proposito di omosessuali, sentiamo. Un responsabile in sostanza, no? Si sente responsabile lei? Sono sempre stato responsabile. Sempre. È terribile. Sempre. Però in questo caso non... ancora di più. Responsabile, certo, molto di più perché è un momento difficile. Molto difficile. Dunque, ma lei è anche nel gruppo dei responsabili in Parlamento, adesso si chiama in un altro modo. Tecnicamente, no? Sì, Popolo e Territorio. Tecnicamente. Lo dice un po' schifato, Popolo e Territorio. No, PT. No, non sto parlando di Poste e Telegrafi. No, lo so. Però sembra un po'. Parliamo di un'altra cosa. Chi l'ha scelto anche qui Popolo e Territorio? Ma perché lei vuole sapere tutto questo? Ma perché? Perché presto verrà aperto un fascicolo da qualche procura su questo nome, su chi ha scelto questo nome, probabilmente. Per crimini contro l'umanità. Per crimini, sì, perché un nome terribile. Io pensavo si potesse fare, invece non si può fare. Cosa? Popolari per l'Italia. A me sa cosa mi dà? Glielo dico proprio dal cuore. Il domani. Mi rompe i coglioni. Domani. Popolari per l'Italia di domani. Ma perché di domani? Ma io veramente mi sta qui questo perché nome. Scusi. Oggi scusi, lavoriamo per far crescere. Sì. Un po' di cultura e di persone per domani. Sa come direbbero le iene? Questa è proprio una. Ma le iene ho lasciato. Una grandissima cara. Ormai le iene hanno perso il mordente. Ma sono, come hanno perso? Sono iene addormentate. Ma che dice? Ma come? Scherzo. Adesso verranno a trovarla, vedrà. Dice? E troveranno qualcosa su di lei, sicuro. Su di me c'è la voglia, possono trovare tutto quello che vogliono. Va bene, 800 24 00 24. Il ministro Romano qualche giorno fa sulla questione degli omosessuali, matrimoni gay a New York, eccetera eccetera. La famiglia fatta con un uomo, una donna, che poi questi si sposano per avere figli, non quelle famiglie che abbiamo visto sposare ieri a Manhattan in delle scene che realmente fanno rabbrividire. Io avevo la mia bambina accanto, ho dovuto cambiare il canale della televisione. È logico che sia così, una bambina a 6 anni mi chiederà ma perché quei due uomini si baciano, perché si sposano, ed è complicato poterlo spiegare quando ancora le nostre televisioni danno anche questi messaggi negativi. Da questa loro atroce malattia. Beh, che dire signor Gianni, anche lei di fronte a scene di questo tipo come quelle dei matrimoni a New York, no? Che? Ma io posto sì. Civile a New York, no? Molto, perché molto civile. Assolutamente. Civile a New York, i matrimoni sono ormai ovunque, fra omosessuali. Ma ciascuno di noi può anche avere una propria opinione. No, ma certo. Sì, però dire che ma quando lei vede queste immagini di questa fila di persone che vanno a sposarsi a New York, che cosa prova? Nulla. Nulla. Nulla. Nulla. Niente. Assolutamente nulla. Ognuno fa le scelte che vuole. Sì. Io sono contrario. Sì, vabbè, questo. La libertà di fare quello che gli pare. Io sono contrario. Non è una cosa che mi. Ai suoi figli cosa dice lei? Cosa ha detto, diciamo? Ma nulla, i miei figli sono tutti e due maschi, uno è 33 anni, tutti e due 28, l'altro 28. È già eterosessuale, no? Entrambi. Tutti e due eterosessuali. Lei è sicuro, sì. Sono fatti loro. No, perché? Perché quello che risulta a me, uno ha già due bambini, sì. E quindi l'altro è più piccolo e bene. Il suo modo di ma non vivere. Non è che secondo lei non glielo devo dire io quello devono fare, no, beh certo, se ma dovessero avere queste tendenze ne prenderò atto, ne prenderà con rammarico, diciamo, si sarebbe un po' dispiaciuto, non farei balle di gioia, non farei tanghi o comparsite, però ovviamente cioè sarebbe un po' dispiaciuto, insomma, lo ammetta, ma non c'è niente, ma sa, non... noi siciliani abbiamo questa caratteristica un po' particolare, cioè? Una tradizione, quella che ci piacciono le donne. Beh, a sì. Tutti adesso ci sarà qualche. Ogni tanto qualche cosa sfugge. Qualche omosessuale in Sicilia ci sarà, no? Qualcuno. Qualcuno c'è. Come qualcuno. In Sicilia ci sono meno omosessuali rispetto al resto d'Italia? Non l'ho fatto questa indagine, ancora non l'ho fatta. Però mi riprometto di farlo e le faccio sapere. No, perché sarebbe così, curioso. Perché lei dice, noi siciliani abbiamo un'attitudine particolare per. Sa, io sono uno che ha una certa età, quindi sì. Parlo dei miei tempi, qualche secolo fa. Vabbè, anche adesso penso che non è che disdegna il genere femminile. In generale, no, onestamente, guarda, sì, sono carine le donne. Il barazzo dell'onorevole, va bene, cioè, signora Gianni, non stia serena, è qui a Roma, serena, è a lavorare, non si preoccupi. È lontano da casa, ma sta lavorando. A Roma ci sono molte tentazioni per chi abita in Sicilia, per chi ha la famiglia lontana. Ci sono tentazioni. Roma, tentacolare. Ma le tentazioni sono ovunque ormai, non c'è il problema. Però la distanza. Scherzo, mi piace. Però anche Roma è tentacolare, no? La suburra è proprio. Tentacolare oppure che fa venire le tentazioni? Fa venire nel senso fa venire le tentazioni, appunto. Beh, sì, per uno che è lontano, sì. Fa il deputato qui, le tentazioni ce l'ha. Ma le tentazioni sono ovunque. Sì, vabbè. Io faccio anche un lavoro gradevole, faccio il medico, quindi dunque? Potrei essere tentato mille volte al giorno, ma ho raggiunto la mia serenità e l'equilibrio. Non ho detto questo. Lei mi vuole fare diventare un pacifista dei sensi. No, per carità, non l'auguriamo a nessuno. Va bene, 800 24 00 24, il tenore, facciamo uscire fuori questo tenore. Il tenore Pippo Gianni. Vincerò, ci canti più. Un amore così grande, un amore così tanto bello, tanto caldo intorno a voi, una magia faccia su di noi. Un amore così grande, un amore così. Beh, insomma, la voce c'è. Massimo rispetto. La voce c'è. Mi sono guadagnato anche. Cosa? Un altro invito. No, vabbè, sì, ma che fa? Monetizza. Ma che roba. No, ci ho provato. Io stasera. Ma che roba. Stasera ci ho provato perché mi piaceva e quindi la compagnia è carina. Poi c'è Mario da Genova che ha bisogno del ricovero. Essendo medico, io gli posso fare anche 3 fogli. Comunque le segnalo che il presidente dell'Arcighè è siciliano, si chiama Patanè. Bravo. Presidente dell'Arcighè. Allora è bravo. Ha capito? Sì, il presidente dell'Arcighè è siciliano. Tatan, smacco per loro. Va bene, Mirko da Roma, da Roma. Ma insomma, voglio dire, io voglio capire se lei considera in fondo che ci sia una lobby degli omosessuali che preme per fare queste leggi. Esiste una lobby? Sì, un attimo, Mirko. Ok. Ma guarda, esiste sta lobby o no? Le lobby esistono ovunque. Dunque, anche gli omosessuali in altri posti del mondo sono anche ufficiali, qui diventano reati, fare lobby è un reato, quindi le pressioni ci sono per qualunque obiettivo, sì? Ovviamente ci saranno anche quelli che vogliono raggiungere questo obiettivo e allora si fanno lobby per cercare di arrivare alla ma la lobby omosessuale è potente? Non lo so, a me non mi ha cercato nessuno, anche se sono un bell'uomo. Vabbè, se lo dice da solo, scusa. Scusa, lei non che fa da sé, fa per tre. Ho capito, ma lei non l'ha cercata nessuno perché sanno che non la pensa. Ma non è vero, mi possono anche convincere. Beh, mi pare difficile. Chi l'ha detto? Beh, insomma. Onorevole Gianni, francamente mi pare molto difficile. Allora diamo il cellulare, lo diceva Iazzone, provare per credere. Mirko da Roma, Mirko da Roma. Qua. Allora, mi sentite? Dica. Ci sono? Sì, dica. Ok, brevemente. Allora, innanzitutto, sentire un parlamentare che è vice segretario di un partito che non conta nulla, che dice grazie, che sono una casta, i tassisti, che sono una casta dei lavoratori che Mirko, lavorano onestamente per guadagnare soldi. Faccia. Allora, diciamo questa cosa in partenza che a me sembra vergognosa. E lo dico a nome ma cosa ha detto? Non lavora, me lo ricordo. Cosa ha detto? No, ha fatto l'elenco delle caste che ci sono in Italia. La casta, il tassista, caste, con supponenza. Questo con supponenza mi dice che la gente che lavora è una casta. E questo è vice segretario di un partito che non conta un cacchio. Ma ci rendiamo conto di che vergogna è questa? Mirko, voleva dire Mirko, che esistono diverse caste in Italia, Mirko, diverse corporazioni. Mirko, ho fatto una battuta, se non capisci non ti posso aiutare, mio caro. Io ho fatto una battuta. Lascia stare, ho detto che ho fatto una battuta. Mirko, ho fatto il tassista. Io ho fatto il tassista, sono andato a scaricare pietre nei camion. Lasci parlare Mirko. Lasci parlare Mirko. Mirko, allora. Lasci parlare che l'ha invitato, l'ha lasciato parlare abbastanza. Lei è un parlamentare, vice segretario di un partito che non conta nulla. E quindi non preoccupa, non conta nulla. Di tutti gli italiani, dice che il tassista è una casta. Ma si vergogni. E poi dico una cosa, lei fa il tassista, Mirko, lei fa il tassista? No, assolutamente, per carità di Dio. Non faccio il tassista. No, ma non è mica un delitto. Perché se non sono tassista non mi posso indignare che questo. Sì. Volevo saperlo e basta. Che fai di lavoro, Mirko? Cosa fai? Questi sono affari miei. Io adesso voglio dire un'altra cosa riguardo quello che era. Complimenti, Mirko. Complimenti. Vabbè, allora mi dica. Complimenti. Vabbè, mi faccio i complimenti. Per la domanda. Intanto c'è una notizia incredibile uscita adesso che riguarda il calcio, ma un personaggio in particolare che è De Laurentiis, il presidente del Napoli. Si è allontanato improvvisamente dallo studio dove si sta tenendo il sorteggio per il calendario di Serie A con queste parole: siete delle merde. Voglio tornare a fare cinema. Così. Siete delle merde. Tornare a fare cinema. Ha detto visibilmente alterato al presidente del Cagliari Cellino, che lo ha inseguito fuori dagli studi televisivi per cercare di calmarlo. Non so normalmente con chi ce l'avesse, ma insomma è De Laurentiis, è un personaggio spettacolare. Un grande lottatore. Mirko, allora. Mi senti? Ci sono? Sì. Ok, io vedi comunque che questo è un paese dove ormai l'humus è quello della violenza, della discriminazione. C'è sempre la violenza. C'è sempre la violenza. E io voglio dire una cosa riguardo a Borghezio. Borghezio e la Procura della Repubblica. E mi stupisco che la Procura della Repubblica non abbia aperto fascicoli per altre cose ancora più gravi dette da Borghezio del passato. Gli imam, li prendiamo a calci di qua e di là, e li prendiamo per la barba, e gli altri che devono... Allora, guardi che Borghezio ha avuto delle inchieste nel passato, non è vero, eh? Cioè non è vero che non le ha avute nel passato. Ci sono altri colleghi che sono stati condannati per associazione eversiva, condannati in via definitiva e scendono ancora in Parlamento. Allora io dico, siccome i politici rappresentano, nonostante tutto, purtroppo, anche un punto di riferimento ideologico, loro si devono prendere la responsabilità di dettare le linee di un humus ideologico e sociale. Se queste persone continuano a chiamare la discriminazione, l'omofobia, il razzismo, la xenofobia, non è vero che la Procura della Repubblica perde tempo perché c'è roba più seria, no! Queste sono le persone che sono incaricate di essere diplomatiche. Ho capito, ma le inchieste si devono basare su dei reati, Mirko, noi non stiamo... E quindi devono inquisirli, devono stare dietro. Devono inquisirli, benissimo. Lei mi sembra un po' alterato, Mirko. Aspettiamo di capire l'ipotesi di reato, no? Aspettiamo di capire. Bisogna responsabilizzare i politici. Ho capito. Mirko, senta una cosa, scusi un attimo. Borghezio ha detto delle cose che la maggior parte di noi non condivide. Secondo me, aprire un fascicolo e comunque iniziare un procedimento giudiziario per istigazione alla violenza, nel caso in cui questo procedimento fosse aperto, mi sembra un tantinello esagerato. Non credo di ravvisare nella parola di Borghezio, però io non sono un magistrato, certo, un'istigazione alla violenza. Abbiamo il traffico, torniamo subito. Eccoci qui, 800 24 0024. Questa è la Zanzara. E dove andiamo? Andiamo a sentire Paul da Vicenza, buonasera. Piove, sì, buonasera. Buonasera, dica. Hi, Cruciani, the great Cruciani, finally. Ostia, Bisogna parlare italiano, però. The finally, sì, la grande Cruciani, sì. Finally, dice Paul. Sì, sì, sì, finally, finally, I'm with you. Finalmente, the sì. Great, the great Cruciani, l'abile masturbatore della mente italiana. Ma chi è questo? Questa sera, questa sera c'è una raccolta. Tutti... Excuse me, sir. Sì. Dove si trova esattamente? Io mi trovo nel posto dove l'ambulanza non regge, ma lei deve prendere un'ambulanza, non un taxi. Cruciani, quel pappagallo sì, là, mandalo via, quel pappagallo là, Parenzio, via, via, a casa, a casa. Vabbè, lo sai, capito? Che abbiamo allevato dei mostri, no, abbiamo allevato dei mostri. La situazione è gravissima. A casa tutti. No, ma Paul, scusi un attimo, Paul, lei stiamo calmi un attimo, che è una situazione imbarazzante. Paul, where you come from, Paul? What you say? Sì. What you say, Paul? I'll tell you one thing. Lei sì. È un piccolo vigliacco. E lo spiego anche chi? Perché. Ma chi? Siamo lei, in tre qua. Cruciani, chi? Il masturbatore della mente italiana, conosciuto dappertutto nel mondo. Everywhere they know you. Everywhere, Cruciani. Ma perché sarebbe, scusi, chiedo scusa, perché what lei lo definisce masturbatore della mente italiana? È un masturbatore. Beh, è fantastico, Cruciani, perché mette nel culo De Borghezio con un'intervista stupendo. No. Il linguaggio fantastico, però... Fantastico. Sì. Fantastico. E allora? E che c'entra masturbatore, scusi? Because you give him space. Lei dà spazio a questa puttaniera, a questa faccendiera, a questo parlamentare italiano. Ma non siete mica scemi. Paul, secondo me lei sta facendo le mie... tutti! Ma è impazzito, scusi, ma forse rapido, mandale via. Ma questo forse è meglio il 113. O sta, facendo, o sta facendo l'imitazione di qualcuno, sta facendo delle sceneggiate. Io mi auguro che lei non. No. I'm the cousin of Howard Stern. Howard Stern, you know. The real Howard Stern. Io sono preoccupato veramente di queste persone che chiamano. Caro Paul, ha bevuto lei? Si rilassi un attimo. Si rilassi. Niente. Beva un bicchiere d'acqua. Io sto qui. Neanche un goccio di vino. Neanche un goccio di vino. Neanche un goccio di vino. Cruciani. Sì, dai, lei dice, da quello che ho capito, lei mi critica perché... Scusi un attimo, Paul. Io sono preoccupato seriamente. Io sono preoccupato anche io, però... La zanzara, sono preoccupato, No, però non è che sono tutti come il signor Paul. No, certo, per carità, brave persone, però il signor Paul, no? Poi inquietante il signor Paul, comunque... Il signor Paul mi rimprovera di aver dato spazio a un fascista, un estremista come Borghezio, o sbaglio, Paul? A Borghezio ci vuole una special rendition. Special rendition, sì. Sì, sai, cioè, un'operazione speciale, sì. No, sì, forte, no? A portare via la Omar, come si chiama? Abu Omar, straordinario. Ecco, l'abbiamo portata via noi! A casa tutti! Anche Borghezio, c'è un posto per lui, sai? C'è un posto chi per è? Ma cosa urla? Vediamolo, perché lo prendete qua? No. Paolo, però resti lì linea, se vuole resti lì un attimo. Però si accalmi un po', perché la sento un po' sovraeccitata. No, si può anche non calmare. Sì. Senta, ma è vero che in Sicilia le donne amano farsi un po' menare? Così lei dichiarò illo tempore qualche anno fa, signor Gianni. Ho detto questo? Sì. Ho detto le... sì. No. Da siciliano vi garantisco che qui lo schiaffo non è tabù. Alcune donne parlare. Si sentono gratificate dalle botte. No. E come no? No. Come no? Chi ha scritto quell'articolo è uno che, come diceva Paul, ha una devianza. Quindi smentisce il virgolettato. Le cose sono diverse. E come sono? Parlare di schiaffo non è un tabù. Cioè? Parliamone. Cominciamo a dare schiaffi. Cioè, è legittimo qualche volta dare un bello schiaffone a una donna, secondo lei? Ma perché lei non l'ha mai preso uno schiaffone da una donna? Sì, no, ma che c'entra? Che vuol dire? Però lei ci sta rigirando la frittata, cioè sta confermando. Perché sta altrimenti si brucia. L'ho girata perché si poteva bruciare. No, Gesto ci tenta di coglionare. Però scusi, signor Gianni, ma diciamo che non si picchiano le donne. Cioè, non si picchia nessuno, in particolare le donne non si picchiano. Guarda, io personalmente è giusto, anzi, ricevere schiaffi dalle donne. Io teorizzo questo. Io le ho sempre picchiate con i petali di rosa. Scusi un attimo, certe donne ci provano gusto quando le prendi a calci. così virgolettato. Ma quando mai? Mai detto. Sono pazzo, ma chi l'ha scritto? No, un pazzo. Sì, Barbara Romano. Ma Barbara Romano è saggia. No, Barbara Romano scrive sempre cose corrette. Ma, non è, ma sì, ma lì si è lasciato andare. Ma si vede che l'ha detto lei, non è che, non è che Barbara Romano se l'ha inventata. Ma non è così. Non è così. Invitiamo Barbara Romano. No, ma lei si è lasciato andare dicendo che è vero che ogni tanto le donne, quando gli dai qualche schiaffo, sono contente. Beh, che ci sia qualche masochista su questo non ci piove. Però uomini e donne è uguale. Ma certo. Che ci siano anche chi è affetto da sindrome di Stoccolma, e c'è pure. È un fatto, una novità. Quindi io parlo in generale, non è che parlo che adesso abbiamo cominciato una nuova vita, quella di prendere a schiaffi e a calci le donne. No. No. Capitato, capita. Che le donne non deve capitare, assolutamente, diciamo, non deve capitare. Sempre, sia che i maschi picchiano le donne, che le donne picchiano i maschi. Comunque è vero che la signora Finocchiaro ha detto: il più maschilista è Pippo Gianni dell'UDC, quando era nell'UDC, capace di dichiarazioni irripetibili sulle donne. Quella di prima, cioè? La dichiarazione di prima, quella che ha detto mi ha reso. L'ha reso? Noto, mi ha reso. No? Quello, cioè, le donne non devono scassare quella lì. È una frase uscita così, voglio dire, perché era un momento anche che di insistenza, perché bisognava per forza votare una certa legge sulle quote rose, eccetera. Io sono contrario, anche se poi alla fine, anche l'altro giorno, abbiamo votato la presenza delle donne nei consigli di amministrazione. Per esempio, è stato un errore votare le donne nei consigli di amministrazione anche degli enti privati. Io posso dire quelli pubblici, ma obbligare anche i privati. Oppure, sbagliato. No, non è tutto sbagliato. C'è un tentativo di rimodulare la presenza della donna nella sua cultura, diciamo, che la società, donna è il prototipo della donna siciliana che negli anni 50 deve stare a casa. No, deve stare a casa. No. Ogni donna può fare quello che le donna pare. Prima ci mancherebbe. Prima madre. Donna bravo, è madre. Bravo. Vedi, prima madre. Non vedi che è bravo? Bravissimo. Prima è madre. Paul non c'è più, è scappato il signor Paul. Te credo. Ho scappato, te credo, amico mio. A quando l'inno? Vedi, a quando, su che si sta lavorando per l'inno dei popolari per l'Italia di domani, signor Gianni? Ma guarda, no, non posso sentire questo discorso. Quale dell'inno? L'inno, sto male. Su cosa puntate? Non posso fare stare male quel signore, quindi la prego, lei non mi faccia questa domanda. Davvero, che intenzione? Sono insinuante e inopportuno. Il signor Romano è perseguitato dalla giustizia? No, nessuno è perseguitato, c'è qualcuno che vede le cose in maniera diversa. Certo, io una riflessione l'ha fatta. Se un pubblico ministero come Di Matteo, che è una persona riconosciuta in tutto il mondo, una persona di altissima capacità professionale, dopo 8 anni e mezzo richiede per 2 volte l'archiviazione, e poi c'è un, per carità, tutto legittimo, che il GIP dopo 1 mese, 2 mesi di aver guardato, decide che deve essere inviato a giudizio, io qualche riflessione la faccio. No, si deve dimettere, no? E perché? Che ne so. Perché dovrebbe dimettersi? Perché ha delle accuse gravi per mafia. Concorso esterno. Guarda, un'accusa non si neve nessuno. 8 anni e mezzo di indagine, però la dico. Comunque lunga. Non si deve dimettere. Non si deve dimettere. Quando avremo chiarito, vede, io non sono per il reato. Però non è obbligatorio fare il ministro, no? Cioè, non è obbligatorio fare il ministro. Non è nemmeno obbligatorio. Perché l'ha prescritto il medico, dice devi fare il ministro. Assolutamente, ma nemmeno è previsto che se io le dico una cosa contro lei deve finire di fare qui il suo lavoro. Quando avremo chiarito che quello che dico io è vero, questa qui non è una carica pubblica, questa è un'azienda privata che però dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere. È un'azienda privata che può scegliermi, ma che incide sull'opinione pubblica. Attenzione, capito, però. Perché come dice, è una scelta di un privato. Lei può anche entrare nella mente delle persone. E con questo chiudiamo. Grazie onorevole Gianni, ci sentiamo domani con la Zanzara alle 18:30. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.